Il nome che vedete qui, a cui fa riferimento il blog, è Verlan, che è il nome che ci siamo scelti, che era un po' questo gergo parigino degli anni 70, che era un linguaggio giovanile, che aveva come scopo quello, diciamo, di sfuggire al potere, anche se pare che oggi sia stato ridotto all'inoffensività di una sorta di prodotto tipico, quindi non ha perso molto la sua carica. E diciamo, per quanto sia un sì, ecco, poi giustamente diceva Valeria che trovate qui in platea un piccolo glossario dove abbiamo messo delle voci che sono propedeutiche alla comprensione dei temi che affronteremo oggi, di cui parlerà Martina. E vi dicevo del nome di Verlan, beh, nonostante sia una sorta di ready-made linguistico, abbiamo scelto più per la sua carica evocativa, però insomma è un nome felicemente scelto perché esprime abbastanza bene le linee guida che abbiamo in mente, cioè quelle di dare una rilettura inversa del reale che ne denaturalizzi le condizioni, e insomma l'idea è quella di andare ripercorrere il flusso dominante della realtà e mettendo in luce anche le intenzioni rimosse, insomma le intenzioni rimosse da parte dell'ordine dominante. Beh, credo di avere concluso, insomma, questo è più o meno quello che volevo dirvi. Adesso lascio la parola magari a Martina che vi parlerà del tema di oggi e vi presenterà il nostro ospite. Allora, come ha già detto Pierre, l'incontro di oggi è il primo di una serie di seminari su vari temi, che sono quattro appunto. Quello di oggi è sul lavoro. E appunto nello specifico ci sembrava interessante costruire quindi un discorso attorno alle mutazioni e alle trasformazioni del lavoro nel contesto economico attuale che viviamo. Per questo motivo appunto abbiamo scelto di chiamare un professore come Andrea Fumagalli, che penso molti di voi conoscano, fa parte del BIN Network, che è appunto questa rete di ricercatori e studiosi che si occupa poi di sviluppare l'ipotesi e l'analisi riguardo al reddito di base. Ed è sicuramente noto anche per i suoi studi appunto sulla moneta, sulle trasformazioni del lavoro, oltre che per vari saggi sul reddito di cittadinanza e il basic income. Da ricordare sicuramente appunto il lavoro di ormai 10 anni fa, di più di 10 anni fa, del 1998, che sono le 10 tesi sul reddito di cittadinanza, di cui ovviamente a distanza ormai di 12 anni possiamo tracciare sicuramente un bilancio positivo. Perché appunto vediamo che questa ipotesi, questa analisi sul reddito trova sempre più consensi nel contesto della crisi globale che ormai dall'anno scorso stiamo attraversando. Con lui appunto vorremmo analizzare proprio il modo in cui il paradigma post-fordista porta con sé precarietà e frammentazione del lavoro, nel momento in cui appunto il ciclo produttivo non è più materiale, ma si inserisce in un'economia della conoscenza, quindi un'economia immateriale, in cui ciò che il capitale riesce a mettere a valore sono conoscenze, relazioni, linguaggio. Tutto ciò ci sembra comunque, dai discorsi che ci siamo fatti precedentemente a questo seminario, importante per l'analisi che vorremmo riuscire a costruire e a seguire con questo incontro. Vorremmo capire infatti meglio, confrontandoci con te, anche perché insomma, le nostre conoscenze d'economia possono essere limitate, il meccanismo di valorizzazione del simbolico, e che il capitale riesce continuamente a mettere in atto, e riuscendo così a captare proprio il frutto della cooperazione sociale e di quanto viene prodotto in comune, imponendo anche adesso dei limiti e delle misurazioni, come ad esempio il discorso sui brevetti o sul copyright. Addirittura, ad esempio, nel tuo saggio, nel testo Reddito per Tutti, tu appunto dici ad un certo punto, cito testualmente, la vita stessa diventare ambito di valorizzazione e accumulazione. In questo senso ci sembrava interessante chiederti, ad esempio, cosa intendi per vita in questo contesto e in questa analisi. Inoltre, per concludere, ci interessava approfondire il discorso dell'egemonia del general intellect e della cooperazione sociale nel capitalismo cognitivo e come poi a questo discorso si leghi la tesi di un reddito di base e questa tesi, questa analisi possa diventare una rivendicazione centrale dei movimenti sociali da un punto di vista politico come esigenza appunto di redistribuzione della ricchezza alla cui produzione poi partecipiamo tutti e tutte noi attraverso appunto la cooperazione e quanto sempre possa essere centrale per la ricomposizione sociale della massa appunto della moltitudine precaria messa al lavoro. Allora, innanzitutto grazie a voi per l'invito e per l'occasione di fare diciamo quattro chiacchiere abbastanza informali su tematiche che non sono affatto da salotto, perché sono tutte le domande che sono state poste richiederebbero un tempo di analisi, di approfondimento di gran lunga superiore alle due ore che ci diamo. Quando poi ci saranno i morsi della fame, questo accelererà la conclusione. E io cercherò di analizzare i temi trattati, diciamo, sviluppando tre linee di ragionamento. La prima, che è la più veloce, è iniziare a riflettere, ormai a 20 anni, dall'inizio di quella che alcuni di noi della corrente di pensiero che ha le sue radici nei metodi, nell'analisi operaista degli anni 60, chiamano capitalismo cognitivo, o accumulazione bioeconomica, o, se vogliamo mettere insieme le due cose, biocapitalismo, come scrive Marazzi o come lo chiama Cristina Morini. E a 20 anni dall'avvento di questa nuova configurazione di accumulazione, valorizzazione e distribuzione, vedere se è possibile iniziare a fare un primo tentativo ex post, come sempre essere fatto in questi casi, di periodizzazione del passaggio dal paradigma fordista industriale al paradigma cognitivo immateriale, diciamo. E questo è il primo punto. Mi soffermo su questo punto perché mi piacerebbe in un futuro non troppo lontano che venisse bandito il termine post-fordismo. Questa è la mia intenzione, questa è la mia visione del tutto personale, poi vi spiegherò perché. La seconda linea di ragionamento invece verterà sull'analisi di quelle che sono le caratteristiche di produzione e quindi di accumulazione, produzione di valore aggiunto, produzione di plus valore e quindi di valorizzazione insite nel paradigma cognitivo immateriale. Affronterò questo tema, lo dico subito, da una prospettiva meramente e tristemente economica, sperando di non tediarvi eccessivamente, così questo mi consente di ridurre la tematica, sennò. E la terza linea di ragionamento si focalizzerà sull'aspetto della distribuzione, qui entrerà in discorso sul basic income e sul reddito di base. Questa è l'architettura che ho pensato di presentarvi, cercherò di concludere in meno di un'oretta, così da lasciare spazio poi a domande, eccetera. Allora, primo punto, vediamo un po', che tipo di periodizzazione possiamo fare per quanto riguarda il passaggio dal paradigma fordista materiale industriale al paradigma cognitivo immateriale che si è verificato a partire dai primi anni 70 o metà degli anni 70 fino ad oggi, siamo a metà anni 70 e 75 è un anno in cui per la prima volta dopo 30 anni il prodotto interno lordo cala del 3,5% in termini reali, è l'anno cosiddetto di cesura che pone fine al paradigma fordista taylorista keynesiano, fino al 2009, quindi sono passati un quarto di secolo praticamente, anzi più di un quarto di secolo, 34 anni, in cui nel 2009 il PIL cala del 5,1%, che è il calo principale ha avuto l'economia italiana, se ce ne mettiamo l'economia italiana, dal 45 ad oggi. Apro una parentesi, ogni tanto avete letto, non so se avete letto sui giornali, eccetera, dice, è venuto fuori il dato del meno 5%, ho letto al calo maggiore dal 71. Questa è la notizia che è stata presentata sui giornali, eccetera. Mi soffermo perché questo è il modo con cui viene fatta informazione economica in questo paese. È dal 71 per il semplice fatto che le nuove serie storiche calcolate sulla base dei criteri e dei parametri dell'Eurostat, una volta che sono usate per il calcolo del prodotto interno lordo, hanno il primo anno della serie il 1971. Semplicemente per questo. Non significa che nel 70 il PIL è caduto di più e quindi è la più grave caduta del PIL dal 71 perché prima era caduto di più. No, il calo del 5,1% è la calo della ricchezza complessivamente prodotta da questo paese, la più elevata dalla seconda guerra mondiale. Questo per intenderci. Questo è un modo di presentarlo per dire, beh, insomma, ci sono stati anni peggiori. No, in realtà non ci sono stati anni peggiori dal 45 in poi, questo per correttezza di informazione. Ecco, chiusa parentesi, scusate questa deviazione. No? Allora, dal 75 in poi noi lo prendiamo come anno simbolo della crisi del modello fordista terrorista keynesiano, su cui non mi soffermo, sulle motivazioni eccetera, e dal 75 in poi inizia una fase molto confusa, abbastanza caotica, ma fino a un certo punto, di rimessa in discussione di quelle che erano le modalità di produzione, le modalità di organizzazione del lavoro, le modalità di carattere tecnologico, le modalità distributive e di governance sociale. È il periodo in cui si sperimentano, più o meno coscientemente, varie modalità di organizzazione dei processi di accumulazione. Modelli diversi che si coesistono, no? E all'interno del quale non è possibile individuare, almeno sino ai primi anni 90, il venir fuori di un paradigma egemone di valorizzazione di accumulazione. Questi diversità di modelli di organizzazione sono quelli che abbiamo studiato nel libro Il lavoro autonomo di seconda generazione, che è stato pubblicato nel 96 insieme a Sergio Bologna, e che vede da una parte un tentativo della grande impresa taylorista di superare le rigidità dell'organizzazione tayloristica del lavoro tramite un tentativo di ipertaylorismo. E questa è la strada che adesso brutalmente chiamo il modello, l'esperienza giapponese del lunismo e del toyotismo. Fabbrica integrata, estrema, ulteriore parcellizzazione del lavoro, ma attraverso l'utilizzo di tecnologie linguistiche applicate però al capitale fisso, alle macchine quindi, no? Consentono, diciamo, di mantenere quei livelli di automazione elevatissimi che era la ricchezza dell'organizzazione tayloristica della grande fabbrica, mantenere questi livelli di automazione però andando oltre, rompendo la rigidità implicita che il modello tayloristica per definizione comportava. Quindi una flessibilizzazione legata all'automazione è un tentativo di far quadrare il cerchio. Voi sapete che la quadratura del cerchio è uno dei problemi matematici irrisolvibili e in effetti il tentativo non riesce. Non riesce perché il Giappone all'inizio degli anni 90 entra nella più grave crisi recessiva, la più lunga crisi recessiva della sua storia, che dura circa 10 anni per tutti gli anni 90. Dopo che alla fine degli anni 80, quindi per tutto il decennio anni 80, l'economia giapponese era quella che maggiormente era stata in grado di fuoriuscire o di delineare prospettive di uscita dalla crisi del modello della grande fabbrica terrorista, fino al punto di accumulare una capacità di avanzo nella bilancia dei pagamenti, di vendita dei prodotti, che in parte sono state bloccate dall'introduzione di dazi e tariffe sulla vendita delle macchine negli anni 80, le macchine giapponesi, però questa grande liquidità che il Giappone era in grado di produrre era quella che aveva consentito ai giapponesi di acquistare Rockefeller Center, cioè queste cose simboliche, che c'è un simbolismo che ha una sua importanza, no? E via dicendo, che però improvvisamente nel giro di 4 anni, dall'89 al 93, in corrispondenza con la prima guerra del Golfo e con la recessione del 90-91, questa primato economico del Giappone evapora come una bolla. È un fenomeno che è stato poco studiato, ma che vale la pena, ma è indicativo come fatto stilizzato, come dicono gli inglesi, che intorno ai primi anni 90 inizia a trovare un ordine quell'apparente disordine che aveva caratterizzato la prima fase di fuoriuscita dal modello fordista. Il toyotismo è stato un tentativo. In altri tentativi, altri due o tre modelli di organizzazione industriale del lavoro, quindi di accumulazione, come risposta alla fase fordista, era stato il modello delle piccole imprese di stato industriale, tipicamente italiano, che richiede l'esistenza di una serie di condizioni precedenti che non sono esportabili nel resto del mondo. Questo è un modello di cui si rende conto l'importanza quando due noti ricercatori dell'MIT di Cambridge Boston, Pryor e Sable, scrivono un saggio che si intitola sulla politica industriale americana, lezioni dal caso italiano. E in Italia ci si rende conto, dice, come noi insegniamo a fare politica industriale e a dare modelli di organizzazione industriale agli americani, no? In realtà questo è il primo studio che rende su scala internazionale questo tentativo di organizzazione trasversale dei distretti industriali basate su una divisione smithiana del lavoro, che era quella tipica della fabbrica taylorista, ma non più accentrata all'interno di quella che in economia si chiama un sistema di integrazione verticale, dove tutto il ciclo produttivo veniva internalizzato all'interno di un unico luogo di lavoro, consentendo in questo modo di sfruttare i livelli di automazione, l'economia di scala, l'economia di dimensioni, eccetera, eccetera. Ma questa divisione smithiana del lavoro invece si organizza all'interno del territorio, attraverso una serie di strutture reticolari produttive che sono fra loro fortemente interrelate, come se la catena di montaggio passasse da un luogo fisico all'interno dei cancelli della fabbrica su un luogo più ampio, più articolato, più flessibile nei nodi del territorio, in bacini territoriali comunque tutto sommato abbastanza piccoli e limitrofi, utilizzando soprattutto tecnologie a bassa intensità di capitale, quindi con produzioni nel settore cosiddetti più tradizionali, dalla minuteria metallica, alle pentole, all'abbigliamento, al tessile, al cuoio, calzature, eccetera, che sono tutti distretti del nord-est, della fascia adriatica, della Toscana, dell'Umbria, delle Marche, via dicendo. Questo è un altro tentativo di fuoriuscita, che in realtà è una fuoriuscita attraverso un'innovazione di tipo organizzativo, ma che non va poi a mordere o a modificare quelle che sono quelle cause strutturali della crisi del modello taylorista. Poi abbiamo d'altra parte un terzo tentativo, è quello che viene sviluppato dalla grande impresa multinazionale occidentale, quindi non giapponese, no? Che è quella di sviluppare invece delle filiere di produzioni non più di tipo cooperativo, un po' come erano, o di interdipendenza molto stretta, come erano i distretti industriali legati da piccole imprese, dove nessuna piccola impresa era egemone sulle altre, ma erano fortemente legate a una interdipendenza territoriale, di relazioni economiche, eccetera. Invece la grande impresa multinazionale cerca di sviluppare attraverso politiche di outsourcing, come si dice, di esternalizzazione, di riduzione della dimensione media degli impianti, eccetera, lungo filiere produttive che però sono fortemente gerarchizzate. È il modello Fiat, è il modello Benetton, per intenderci, se vogliamo fare degli esempi. Vedete, poi potremmo andare avanti a fare tanti esempi. Questi toyotismo, distretto industriale, modello Benetton Fiat su fornitura, sono tre tentativi, tre che coesistono, perché sono negli anni 80, che è il momento di maggior sviluppo di questi tre tentativi, coesistono e danno origine a quello che giustamente si può chiamare la fase post-fordista. Ma nella fase post-fordista c'è un tentativo di superare la rigidità del fordismo e quindi di modificare l'organizzazione del lavoro, ridurre il peso della capacità contrattuale sindacale, attraverso essenzialmente interventi che potremmo dire di facciata, non di sostanza, perché poi in realtà il nodo, il rapporto lavoro-macchina, la preminenza delle attività materiali industriali è ancora fortemente dominante. Per tutti gli anni 80 i distretti industriali sono distretti manifatturieri. La grande impresa manifatturiera che lavora su gerarchie di subfornitura è impresa manifatturiera tendenzialmente. Il toyotismo viene applicato sempre nell'impresa manifatturiera. L'unica traslazione che avviene verso i processi di terziarizzazione avvengono in seguito alle strategie di decentramento produttivo. Si sviluppa un terziario che è finalizzato e di supporto all'attività manifatturiera, attraverso il fatto che alcune funzioni di tipo aziendale, di tipo terziario, di servizi che prima erano svolte all'interno della fabbrica, adesso vengono esternalizzate a imprese autonome al di fuori della fabbrica, che quindi diventano imprese terziarie, perché sviluppano essenzialmente i servizi alle imprese. È un passaggio importante questo, che però non è sufficiente limitarsi a dire questo e dire questa è l'analisi, perché questo avviene fino alla fine degli anni 80. La crisi del 90-92, che è stata una delle crisi anche qui molto pesante negli Stati Uniti, il PIL degli Stati Uniti è caduto di oltre il 3% nel 91, però è stata una crisi che è durata non più nello spazio di un semestre, spazio di meno di un anno. È stata quelle crisi, come alcuni speravano che fosse anche questa crisi, di PIL cade tanto, però poi rimbalza su altrettanto velocemente, tanto quanto velocemente caduto. E quindi, insomma, tutto sommato, ce la caviamo. È cosiddetta recessione a V, no? E non a U, o a W, perché qui l'uso delle lettere si spreca. O la recessione a L, dove si rimane sempre in basso e non si esce più, non si sale più. Vabbè. No? E questa crisi nel 90-91 cosa succede? Cosa succedono due fatti? Allora, da una parte c'è il compimento del processo di rivoluzione tecnologica che è basata sull'utilizzo delle tecnologie comunicative informatiche, le cosiddette ICT, Information Communication Technology, e che la cui importanza non è soltanto limitata al fatto di inserire il linguaggio nella produzione della catena di montaggio attraverso i sistemi CAD, CAM, CAE e via dicendo, quindi attraverso lo sviluppo dei settori della robotica e via dicendo, ma è quella di immaginare capacità comunicative che vanno al di là dello spazio fisico contingente. Nasce internet da questo punto, lo spazio virtuale, l'utilizzo dello spazio virtuale come ambito di produzione, e questo è un salto non indifferente da questo punto di vista. Io lo analizzo brutalmente da economista triste, qual è la scienza economica, come diceva Carlyle, triste, in maniera da questo, ma si potrebbero fare tantissime considerazioni dal punto di vista sociale, filosofico, antropologico e via dicendo. E l'altro aspetto che occorre considerare, che viene fuori, è che tra l'85 e il 90 di fatto si attua in tutto il mondo, mentre nei 5 anni prima si era sviluppato solo nel mercato anglosassone, la piena liberalizzazione dei movimenti di capitale, cioè prende piede e viene supportato dal punto di vista politico il processo di finanziarizzazione, che è un altro elemento importante. Adesso io non voglio entrare sull'uso sul ruolo dei mercati finanziari, perché questo ci porterebbe lontano e non è qui il caso, però diciamo che a partire dalla seconda metà degli anni 80 e si dispiega completamente negli anni 90, i mercati finanziari diventano luogo di finanziamento dell'attività innovativa e non più il mercato del credito. Secondo lo schema fordista, la banca prestava, il sistema bancario, banca centrale, banche, creano moneta, ma non la utilizzano. La danno in prestito alle imprese che hanno bisogno di moneta, ma non possono crearla. Quindi questa interdipendenza fra banca, capitalismo creditizio e capitalismo industriale, spesso in conflittuale. A partire dagli anni 90, con scelte legislative di carattere politico, quella che conta maggiormente è l'eliminazione della separazione negli Stati Uniti, che databa dagli anni 30, dopo la crisi del 29-30, tra banca di credito e banca d'affari. La banca d'affari era quella che operava sui mercati finanziari, però non poteva dare credito. La banca di credito è quella che non poteva operare sui mercati finanziari, ma operava solo sul mercato del credito. Questa viene meno, questa separazione. E questo significa che gli operatori finanziari, sia dal punto di vista creditizio che dal punto di vista delle società di intermediazione immobiliare, le SIM, diventano un tutt'uno. C'è un grande processo di concentrazione finanziaria che come esito di queste scelte, no? Che favorisce un enorme processo di concentrazione tecnologica. A partire dagli anni 80 in poi, negli ultimi 25 anni, noi abbiamo assistito al più grande processo di concentrazione tecnologica e finanziaria, quindi capitalistica, come mai si è verificata nella storia del capitalismo. In un contesto in cui vigeva il mito o la mitologia della competizione, del libero scambio, del libero mercato e quindi della libera concorrenza, che dovrebbe essere una negazione del processo di concentrazione. Il cambiamento sui mercati finanziari, che diventano fattore di finanziamento dell'attività innovativa, entrano e sostituiscono le politiche di welfare state come forme di assicurazione privata e di accesso ai diritti sociali, sanità e istruzione in primo luogo, previdenza in particolare, sviluppo dei fondi pensioni, sviluppo dei fondi di investimento, da cui sviluppo di nuove tecniche, innovazioni finanziarie e prodotti derivati, viene messa a credito e in debito tutte quelle che sono i bisogni vitali degli esseri umani, dalla sanità, dall'istruzione e ultimo la casa. L'ultima crisi nasce proprio sulla scoppio della bolla immobiliare. No? In più, nei mercati finanziari si determina e diventa un luogo sempre più in cui si misura o si cerca di misurare o di dare una misura quantitativa del processo di valorizzazione capitalistica. Cioè il processo di creazione di plusvalore non è più registrato dalla dinamica dei profitti, così come era classicamente, tradizionalmente inteso nell'epoca taylorista fordista, ma anche nell'epoca precedente. No? Ma quello che conta, l'obiettivo del buon manager, non è quello di fare profitti, ma è quello di accrescere il valore dell'impresa quotata sui mercati finanziari. La crescita, l'origine di capital gains, di plusvalenze, è l'equivalente dell'aumento dei profitti all'epoca fordista. Scusate la brutalità e la rozzezza con cui dico queste cose, ci fosse un economista finanziario mi sparerebbe, ma questo è il concetto di base. È quello che Carlo Vercellone, ad esempio, definisce il divenire rendita del profitto, in cui la questione della rendita, i mercati finanziari non sono tutt'altro che marginali residuali o parassitari, diventano il cuore pulsante dei modelli in cui si valorizza l'accumulazione e in cui si incide sulla distribuzione del reddito, attraverso le forme di assicurazione privata, attraverso la distribuzione delle plusvalenze e attraverso il cambiamento anche dei regimi di remunerazione del lavoro, che avviene soprattutto negli Stati Uniti negli anni 90. Tutto questo è amplificato dal fenomeno delle netcom o delle dotcom, cioè le imprese internettiane. No? Qui nasce quello dal 91-92, da fuoriuscita della crisi, nasce quello, si instaura in maniera più che egemone il modello del capitalismo cognitivo. I distretti industriali entrano in crisi, muoiono. Il toyotismo muore, non è un caso che proprio negli anni 90 il Giappone entra in una crisi di grandissime proporzioni. Quello che rimane in vita è il modello di gerarchia su fornitura delle grandi multinazionali, all'interno del quale però si attuano dei meccanismi di organizzazione del lavoro e di espropriazione della potenza della cooperazione sociale, sempre più delineato come obiettivo manageriale. È molto più interessante per capire la trasformazione del lavoro non andare a leggere un manuale di economia del lavoro fatto dagli economisti politici dove non c'è scritto niente di interessante, ma è più interessante andare a leggere quelli che scrivono quelli che sono la scienza dell'organizzazione aziendale, tutti i testi che hanno a che fare con il tentativi di individuare unità di misura di quelle che vengono chiamate gli intangibles, cioè le parti del bilancio aziendale che sono capitale intangibile, cioè capitale immateriale, il valore del brand, il valore di un simbolo, il valore dei linguaggi utilizzati, sono tutte queste entrano, che poi daranno origine a una certa organizzazione, segmentazione e divisione del lavoro su base gerarchica, di cui adesso parleremo. Ma questo passaggio avviene proprio all'inizio degli anni 90, avviene negli Stati Uniti, consente agli Stati Uniti di recuperare la posizione di leader economica, che era fortemente messa in dubbio dalla crescita giapponese degli anni 80. E quindi in conclusione direi, se dovessimo fare una periodizzazione, diciamo 75-90, post-fordismo. E qui il termine post-fordismo è più che ragionato, perché non siamo ancora in una situazione in cui è possibile delineare in maniera compiuta le caratteristiche e gli assi portanti del nuovo modello di produzione e di accumulazione, perché ne sono presenti di più di uno. Però non siamo più nella fase fordista classica, quindi siamo nella fase proprio post, di transizione. Ma come tutte le fasi di transizione, questa non termina, adesso noi dobbiamo essere in grado, attraverso lo studio interdisciplinare di tutto ciò, di tutte le variabili umane, sociali, economiche, politiche che necessariamente bisogna prendere in considerazione, di andare a definire la sostanza o i pilastri fondamentali del nuovo modello di organizzazione. Da qui nasce il termine capitalismo cognitivo, accumulazione bioeconomica, eccetera. Questo credo che sia importante, credo che, insomma, magari uno, questa è la mia posizione, per dire, è la mia, proposta di periodizzazione, se posso dire, no? E partendo da questo che alcuni di noi hanno iniziato a studiare il capitalismo cognitivo, andare a cercare se, andare a verificare con i dati se effettivamente questo è vero. Quello che possiamo dire negli studi che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni è che i risultati che abbiamo ottenuti sono consenzienti con questa interpretazione, da quello almeno dal mio punto di vista, no? Allora adesso veniamo al secondo, secondo linea di ragionamento. Come si caratterizza, anche qui vado molto con l'accetta e veloce perché soltanto questo punto richiederebbe ben più tempo di quanto ci è concesso. Tenete presente che il tempo è l'unica risorsa veramente scarsa che esiste, quindi, e bisogna farci conti con il vincolo della scarsità del tempo. Andiamo a analizzare velocemente i pilastri del quello che definiamo capitalismo cognitivo, accumulazione bioeconomico o biocapitalismo, chiamatelo voi come volete. No, l'analizzo brutalmente dal punto di vista dell'aspetto della capacità e della potenza dell'accumulazione, quindi della creazione di ricchezza, e poi l'analizzo dal punto di vista della distribuzione. Come si fa in una banalissima lezione di microeconomia, offerta, domanda, eccetera. Questo mi posso permettere di fare questo perché siamo una facoltà di lettere e filosofia, quindi. Allora, dal punto di vista della produzione, qui bisogna fare distinguere fra aspetti di tipo quantitativo, credo, e aspetti di tipo qualitativo. Di solito sono stati spesso più affrontati gli aspetti di tipo quantitativo, che sono quelli più immediatamente percepibili e misurabili, però credo che invece in questo caso il passaggio dal capitalismo fordista al capitalismo cognitivo sia un passaggio da una produzione quantitativa a una produzione qualitativa, e di conseguenza gli aspetti qualitativi sono quelli più difficilmente definibili, spesso non misurabili, e questo come vedremo sarà un problema, ma sono anche sono quelli che sono più interessanti per capire la sostanza di ciò di cui stiamo parlando. Allora qui mi limito a sottolineare alcuni punti, vado un po' con ordine. Allora, primo punto importante, salta o si modifica il rapporto lavoro-macchina o prestazione lavorativa-macchina. Su questo Paolo Birno, che è qui presente, io mi sono rifatto i suoi scritti fatti antesignani, diciamo, degli anni 90, già dei primi anni 90. No? Cosa significa che salti il rapporto tra prestazioni lavorative e macchine? Vuol dire che salta il rapporto, se vogliamo usare una terminologia marxista, anzi marxiana, tra capitale variabile e capitale costante, se lo analizziamo dal punto di vista della produzione, dell'organizzazione della produzione, e dal punto di vista delle soggettività che sono, intervengono in quel rapporto sociale che è il rapporto capitale-lavoro, salta o si ridefinisce su base nuova la differenziazione tradizionale tra lavoro concreto e lavoro astratto. Sapete che lavoro astratto è il lavoro che è quello che consente la produzione di plus valore. Il lavoro concreto è quello che quindi produce valore di scambio. Il lavoro concreto è quello che l'attività congenita all'essere umano tendenzialmente produce valori d'uso ed è quindi l'esplicazione delle potenze del bios umano. Anche qui si dovrebbe fare la distinzione tra bios e zoe, vabbè, ma non entro in questo, in questo campo. No? E salta anche, perché sono tutte e tre cose collegate, anche, o almeno necessita di una ridefinizione, non è che quando dico salta vuol dire che spariscono, tutt'altro, perché questo ci ha creato grossi equivoci, certe volte. Quando si dice salta, salta l'interpretazione che abbiamo realizzato nel passato di definizione di questi concetti. E quindi quando dico salto occorre che bisogna mettersi all'opera, studiare, perché non si finisce mai di studiare, per ridefinire questi nuovi concetti alla luce di quelle che sono le analisi o la percezione che uno riscontra nei propri studi, nelle proprie ricerche, nelle proprie inchieste sul campo. L'altro punto di cui che salta nel senso di ridefinire è il rapporto tra lavoro produttivo e lavoro improduttivo. Allora, il rapporto tra capitale variabile e capitale costante, tra lavoro astratto e lavoro concreto, lavoro produttivo e lavoro improduttivo, non sono tre cose sinonime, però possiamo dire che sono tre facce della stessa medaglia, in un certo senso, sono strettamente interrelate da questo punto di vista. che cosa sta succedendo? Come reinterpretiamo questa? Che tipo di definizione diamo? Innanzitutto, se analizziamo il rapporto proprio più brutale del rapporto tra prestazioni lavorative e macchine, vuol dire che non c'è l'attività di accumulazione e di valorizzazione, non è più semplicemente e solo il frutto di un rapporto fra un interno, che immaginiamo sia l'essere umano, perché noi siamo antropomorfici, antropocentrici, no? E un qualcosa di esterno, che è la macchina, a sua volta prodotta dal genio della creatività umana. Però nel momento stesso in cui in quell'istante faccio un processo di valorizzazione, c'è un rapporto fra un interno, che è l'io, che è il bios, e un esterno, che è la natura, in qualche modo. Questo rapporto è stato sempre la base dell'attività e della gestione economica, dal punto di vista economico, no? E questo è un cambiamento importante. Se c'è un processo di internalizzazione nel bios della macchina, la cosa è un cambiamento qualitativo non neutro, voglio dire, non è che tutto rimane come prima, no? Cambiano le soggettività, le percezioni, le modalità di organizzazione. E questo com'è possibile? È possibile nel momento stesso in cui ovviamente ci devono essere delle condizioni che consentono questo passaggio da un'attività produttiva e quindi un'attività lavorativa che non è più fondata su una separazione dicotomica, binaria, fra lavoro e macchina, che poi significa tempo di lavoro, tempo in un lavoro, produzione, riproduzione, produzione e consumo. E a seconda del tipo di tecnologia di lavoro e di macchina esistente, perché la macchina a questo punto, nel modello fordista, era la macchina, è dalle caratteristiche della macchina che dipendeva il modello di organizzazione del lavoro e il modello di organizzazione sociale. E la macchina è una struttura disciplinare. La macchina taylorista, produzione standardizzata in serie, è una macchina disciplinare. E di conseguenza la struttura sociale che ne consegue e che deve essere adeguata a sviluppare alla massima potenza lo sfruttamento della macchina deve essere altrettanto strutturato su meccanismi disciplinari. E il meccanismo disciplinare è A o B, è un sistema binario dicotomico, essenzialmente. Nel momento stesso in cui le tecnologie linguistiche si sostituiscono alle tecnologie meccaniche, e qui cambia completamente la prospettiva. Cambia la prospettiva perché le tecnologie linguistiche hanno due caratteristiche. Una, sono plurime e molteplici. Non c'è più un uno o un due. Questo può essere paradossale perché le tecnologie linguistiche, quando parlo di tecnologie linguistiche intendo le tecnologie informatiche, si basano su una struttura binaria. Può essere un paradosso questo, come il linguaggio informatico è 0-1, 0-1, 0-1. Più binario di così, non si è. Però le infinite possibilità di combinazione ti danno una varietà di linguaggio che non è riducibile a una struttura binaria. E soprattutto questo consente, perché l'effetto non è tanto importante questo, l'effetto è che il linguaggio artificiale, così come il linguaggio umano, non è statico, ma è dinamico e mutevole nel tempo. Entra un elemento di dinamicità che modifica continuamente il piano dell'attività produttiva e del lavoro, applicato o connesso all'attività produttiva. Questo significa che in termini brutalmente economici, significa che quelli che stanno oggi alla base della crescita della produttività, il tipo di economie di scala, non sono quelle basate sulla divisione, parcellizzazione estrema del lavoro attraverso la divisione smithiana del lavoro applicata alle varie mansioni della catena di montaggio in maniera statica, ma diventano le nuove economie di scala che consentono la creazione di più valore, sono le economie di apprendimento. Le economie di apprendimento del linguaggio, perché il linguaggio è un qualcosa, adesso lo dico in maniera brutale, che non essendo mai simile a se stesso, si modifica con l'uso. I processi di learning by doing, learning by using, learning by interacting, learning by puntini puntini, potete mettere 27 verbi, no? Imparo attraverso l'uso, attraverso il fare, attraverso l'interazione, attraverso eccetera eccetera, mettono in moto un meccanismo, no? Che è cumulabile nel tempo. Le caratteristiche della tecnologia informatica sono elevata cumulatività, no? Che significa che non è più possibile che se io ho una tecnologia o un'innovazione che è frutto di un processo di apprendimento, queste innovazioni possono essere copiate da un altro in maniera statica, come succedeva per una catena di montaggio per il sistema Koch per la produzione dell'acciaio, o un sistema in un'industria chimica per la produzione di determinato solvente. Quando io sapevo la formuletta, avevo le macchine, eccetera, potevo prendere l'industria chimica, portarla a Bhopal in India e fare la produzione più o meno con la stessa efficienza, più o meno, a meno che non saltasse, come è successo a Bhopal. Però il trasferimento di tecnologia era abbastanza facile, tant'è vero che nell'epoca fordista i processi di divisione internazionale si sono ridotti nella seconda guerra mondiale, cioè i divari fra i paesi più industrializzati e i paesi meno industrializzati, e considerando i paesi che non potevano accedere a queste forme di industrializzazione, si è ridotto. Nei paesi dell'Ocse il divario tecnologico, il paese che è cresciuto di meno durante il turismo dal 1945 al 1975, sono stati gli Stati Uniti, che sono stati i primi, mentre tutti gli altri paesi usciti dalla guerra, mezzi distrutti, eccetera, ma anche le quattro tigre asiatiche sono cresciuti molto di più, i divari, proprio perché il tipo di tecnologia, il tipo di trasferibilità era molto più meccanica, tecnica e quindi più immediata, perché la tecnologia era immobile, era statica. Le tecnologie del linguaggio, essendo dinamiche, esportano, ed essendo, dando adito a processi di cumulabilità, o di cumulativeness, si dice in inglese, cumulatività credo che si traduca in italiano, consentono invece che i divari si possano ampliare. Chi parte prima accumula conoscenze, le sperimenta, a sua volta accumulando conoscenze crea nuove conoscenze in un processo tendenzialmente infinito, che si basa sulla trasmissione delle conoscenze. Allora qui viene il secondo aspetto, no? Che è rilevante, che è quello del fatto che le economie di apprendimento diventano valorizzanti e creano valore nel momento stesso in cui il frutto dell'apprendimento si circola, diventa patrimonio comune. E l'altro elemento fondamentale, che è l'altra faccia delle economie di apprendimento, sono le economie di rete, le economie di network. E questo dipende dalle caratteristiche che ha la merce conoscenza, come un nuovo fattore produttivo rilevante. Merce conoscenza che, a differenza delle altre merci di tipo materiale fisico, non è soggetta a scarsità. Lo scambio di conoscenze non è uno scambio, come si dice in economia, di tipo rivale. Cioè quando io scambio, da un punto di vista economico, un bene, scambio i diritti di proprietà sul bene. Io ti vendo questa bottiglietta d'acqua, cedo i diritti di proprietà, e questo mi giustifica l'esistenza di un prezzo positivo, perché la bottiglietta d'acqua ha un prezzo positivo, perché lo scambio cedo i diritti di proprietà e cedo l'esclusività d'uso. Tant'è vero che una volta io ho venduto una macchina, non posso poi andare a riprendere e andare in giro, vengo accusato di furto. La conoscenza, lo scambio di conoscenze, io vi dico qual è la capitale dell'Alaska che voi non sapete, no? Non è che nel momento, e voi mi pagate per sapere la capitale dell'Alaska, quindi mi pagate come se, perché mi interessa sapere la capitale dell'Alaska, come avete interesse di avere una bottiglietta d'acqua, c'è uno scambio di tipo economico, merceologico, tranquillo, però quando io vi dico la capitale dell'Alaska, non è che io perdo la conoscenza della capitale dell'Alaska, io continuo a sapere la capitale dell'Alaska. A questo punto però siamo in due a saperlo, non più solo uno. E se un altro lo trasmette un altro, insomma, capite che voglio dire, cosa voglio dire? La conoscenza è una merce che più si scambia, più si diffonde e più cresce, più si accumula e più genera nuova conoscenza. Potrebbe essere il paese del Bengodi questo, la moltiplicazione dei pane e dei pesci, che insomma, se la guardiamo da questo punto di vista. E quindi è chiaro che il controllo sulla trasmissione della conoscenza diventa nevralgico. Qui da qui viene fuori il problema, adesso non mi soffermo, ma è implicito, il discorso è che oggi il comando sulla produzione, il comando sull'economia di apprendimento, il comando sull'economia di rete non è la proprietà dei mezzi di produzione, ma è la proprietà intellettuale. Ed è sulla proprietà intellettuale che si gioca lo scontro sul comando del capitale rispetto ad altri, o parte del capitale rispetto ad altre parti del capitale, o del capitale sul lavoro. Questo allora, dall'altro lato è necessario che per favorire un processo di accumulazione è necessario che però ci sia questa interazione fra i soggetti, questa comunione di scambi, questa cooperazione sociale, che deve essere una cooperazione sociale basata sulla trasmissione di conoscenze. Ora non entro adesso, perché anche qui sarebbe troppo lungo, sul fatto che fino adesso io ho parlato di conoscenza come una merce omogenea. In realtà bisognerebbe distinguere tra informazione base, conoscenza tacita, conoscenza codificata, perché a seconda del tipo di conoscenza, a seconda delle barriere che vengono artificialmente inserite nello scambio di conoscenze, io ho una nuova divisione del lavoro, che è la nuova gerarchia e segmentazione del mercato del lavoro, che è la divisione cognitiva del lavoro, che diventa anche divisione spaziale. Oggi, se non ho un computer, un cavo, la possibilità di collegarmi a internet, già le mie possibilità di accumulazione e valorizzazione già scadono rispetto a chi ha questa possibilità. Se poi ho la possibilità di accedere o di formarmi delle conoscenze che non sono codificabili all'interno delle tecnologie informatiche, allora io ho un controllo della mia conoscenza. E allora, se tu vuoi sapere questa mia conoscenza, devi fare venire a patti col mio potere contrattuale. Ma tutte le conoscenze tacite, tutte le conoscenze rilevanti che bisogna pagare per ottenere, sono anche quelle che maggiormente poi vengono codificate, vengono espropriate dal soggetto, perché il linguaggio informatico e i computer e le tecnologie hanno l'effetto di standardizzare e quindi rendere aperto le procedure di comunicazione. A questo punto non ho più bisogno di rivolgermi alla persona X che è il sapiente, che sa questo. Se la sua informazione viene codificata, e quando intendo che un'informazione, una conoscenza viene codificata, vuol dire che si trovi in rete, diciamo brutalmente, io vado sulla rete. E il controllo della rete ovviamente è un altro di quegli elementi di cui si discute a Ginevra da anni e anni, sulla regolamentazione di internet, degli accessi, brevetti, copyright, eccetera, eccetera. Cosa voglio dire con questo? Arrivo al termine dicendo che oggi la produzione, cerca di fare un'analisi, si può fare un'analisi ben più rigorosa, ben più precisa di quello che ho detto, ma dal punto di vista proprio strettamente utilizzando le categorie economiche che si insegnano all'università, università pensiero dominante, non utilizzando concetti strani, per dire che oggi, da un punto di vista prettamente economico, l'organizzazione produttiva che sta alla base del processo di comunicazione si basa su un processo di cooperazione sociale. Questo è stato chiamato anche general intellect, perché è una cooperazione sociale di un certo tipo, non quella necessaria per organizzare un picnic, per intenderci, però è basato quindi sullo sviluppo della conoscenza, basato sulle caratteristiche specifiche di una merce particolare come la conoscenza. Un'altra merce particolare sarebbe la moneta, ma non entro nel merito di questo discorso, che ha a che fare con l'aspetto della finanza. Controllo della moneta e conoscenza sono le due leve del controllo del comando sui processi di produzione. Chi controlla i processi di generazione e diffusione della conoscenza, chi controlla i flussi finanziari, e da qui sta l'importanza che ricordavo del mercato finanziario, no? Ha in mano le leve della gestione economica. È la nuova configurazione sociale che si determina in questo modo. Sul lato del lavoro, cosa abbiamo? Abbiamo che il tipo di attività lavorativa, che viene svolta è nel momento stesso in cui io utilizzo sempre più nelle mie attività produttive processi di apprendimento, economia di apprendimento, processi di relazione sociale, economia di network, di scambio. Viene inserito il linguaggio anche nelle produzioni manifatturiere materiali. Se pensate a un sistema CAD-CAM, un sistema CAE, l'operatore che sarà che tiene in montaggio non fa più come Charlot in tempi moderni, sarà a girare il dado, ma è su una tastiera e dà input di linguaggio e fa parlare e comunicare delle macchine che stanno su, macchine operatrici che stanno su, in maniera tale da modificare e flessibilizzare l'output che ne scaturisce. Nel nord del mondo, quindi dalle nostre parti, nel momento stesso in cui i processi di produzione manifatturiera si sono fortemente delocalizzati in altre parti, l'attività prevalente, quella anche a più alto valore aggiunto, quella che produce più ricchezza, no? È essenzialmente invece nei processi di gestione logistica della merce, quindi diffusione della merce, e nel controllo delle fasi di controllo finanziario e tutte le attività di ricerca e sviluppo, innovazione, servizi ad esse legati. Che è un altro processo di terziarizzazione, che non è quello che aveva iniziato a aveva iniziato a verificarsi negli anni 80, alla fine degli anni 70 come decentramento produttivo. Segue, approfitta di questa già tendenza alla terziarizzazione negli anni 80, ma cambia qualitativamente di segno. Nella realtà milanese, quella che io conosco perché io faccio inchieste su questa realtà, ormai negli ultimi 10 anni il 37% del valore aggiunto prodotto nella regione, nella Lombardia, e arriva il 42% nella provincia di Milano, è prodotto da attività cosiddette di terziario immateriale, cioè tutte quelle attività che non sono legate alla merce, ma sono legate a quella produzione simbolica di linguaggi, editoria, mediatica, design, brand, servizi finanziari, consulenziali, brevetti, test, eccetera, no? che esistono a prescindere dalla merce. Mentre un altro 35%, che arriviamo al 70% circa, è tutto terziario materiale, cioè tutta la logistica della merce, cioè magazzinaggio, trasporto, grande distribuzione, catering. Soltanto il 25% in quella che era la capitale industriale del nostro paese del valore aggiunto viene prodotto da attività manifatturiera vera e propria. E se andiamo negli altri paesi queste proporzioni si modificano. Ma si stanno modificando velocemente anche in Cina, Non soltanto, non è che adesso in Cina invece l'80% manifattura, no. Tutt'altro, se andate a vedere i dati che ci sono, è vero che in molti paesi del mondo, nei paesi Brasile, i cosiddetti paesi BRIC, Brasile, Russia, India, Cina, e ci mettiamo poi il Sudafrica, c'è stato un fortissimo aumento della produzione manifatturiera, e quindi della composizione operaia, diciamo, ma altrettanto rapidamente si assiste a processi di questo tipo, perché questi paesi vogliono controllare la capacità tecnologica, la capacità finanziaria. Questa è anche una delle ragioni della crisi finanziaria, della tensione fra la capacità produttiva dell'Est e il declino della capacità produttiva dell'Ovest, o di controllo della capacità produttiva dell'Ovest, o dell'egemonia dei mercati finanziari anglosassoni. E dal punto di vista del lavoro, dicevo, in questi settori l'attività lavorativa è un'attività essenzialmente dove vengono utilizzate quelle che sono le facoltà umane, le facoltà cognitive. Certo, io ho la macchina perché c'ho una macchina che è il computer, il personal computer, sono inserito in un sistema di server, però non è sono io che comando il computer, non è la macchina, è i tempi della macchina che comandano me, come era la macchina sulla catena di montaggio. La macchina diventa puramente strumentale alla dipendenza dell'attività lavorativa umana, quindi il mio cervello e le mie modalità lavorative, spesso anche caratterizzate da una certa autonomia di decisione, di pensiero, e quindi mettendo in gioco tutte le differenze esistenti, differenze di genere, differenze di cultura, differenze di apprendimento, differenze fisiche, estetiche, di carattere. Quindi poco a poco tutte le facoltà di vita, tutto il bios viene inserito nel processo lavorativo. Con questo intendo quando si dice che la vita viene messa al lavoro. E viene messa al lavoro in un contesto dinamico e cangiante nel tempo. Spengo il cellulare prima che suoni. No? Cioè in maniera sempre mutevole. Quindi mai che si possa fissare e dire è così. E su questo ragioniamo, perché tu dici oggi è così, ma domani è già dinamico. E anche il processo di valorizzazione non è più individuabile all'interno di categorie temporali precise, cioè la giornata lavorativa, come fa il classico esempio che fa Marx nel Capitale, 8 ore, 10 ore di giornata lavorativa, 8 ore di lavorativa, 6 per la produzione condizioni di sovrivenza del lavoratore, 2 ore sono il plus lavoro che se poi viene realizzato diventa plus valore, eccetera, eccetera. Quindi si può definire il stato di sfruttamento, eccetera, eccetera. La legge della caduta tendenziale del profitto. Oggi il problema è che tu la misura di questa attività lavorativa che viene fatta attraverso, non più mediata da un qualcosa di esterno e quindi oggettivizzabile in qualche modo, ma che invece è mediato da te stesso, e diventa difficilmente misurabile e poi si modifica, C'è una crisi della teoria del valore lavoro, che non è la non validità della teoria del valore lavoro, perché la teoria del valore lavoro è l'unica teoria che ha senso oggi, ma ancora più di prima, perché se la conoscenza è una merce non rivale, la teoria neoclassica del valore utilità, basata sulla scarsità, proprio non ha proprio senso che esista più. La conoscenza è un prodotto dell'attività umana, del lavoro umano, però è un lavoro che non è più misurabile dall'esterno, non è più oggettivabile attraverso il grado di quanto è contenuto nel processo, nella macchina, ma è qualcosa che varia, è variabile, non lo so io. Questo è un problema che qualche filosofo dovrebbe affrontarlo, non sicuramente un povero economista, ma questo però fa sì che il lavoratore sia nello stesso tempo protagonista della propria attività lavorativa, ma anche all'interno, o almeno pensa, spera, si augura, all'illusione, all'immaginare di essere protagonista, di essere libero nel processo lavorativo, all'interno però di una struttura di organizzazione del lavoro che si basa essenzialmente su un nodo con contraddizione che è, da una parte, la necessità di una cooperazione sociale che consente la valorizzazione dal punto di vista capitalistico, e dall'altra invece la necessità da parte del capitale di controllare questo grado di libertà che la nuova condizione lavorativa con sé per definizione porta. Per questo punto la macchina è dentro il mio cervello, non è esterna. È quello che gli economisti non a caso chiamano il capitale umano. È un'espressione abbastanza orrorosa, ma rende bene l'idea. Cioè, o quello che Marazzi chiama il modello antropocenetico di produzione, o il modello dell'uomo per l'uomo. Quindi dice, cavolo, siamo nel comunismo, finalmente il modello dell'uomo per l'uomo, no? In realtà non siamo affatto nel comunismo, siamo molto distanti, perché questo è all'interno di un meccanismo di controllo e di forte sussunzione. Dico due cose, poi passo al basic income. La prima è che all'interno di questo cambiamento qualitativo della prestazione lavorativa, appunto, uno degli effetti che ci sembra di ravvisare è che ha consentito questo, l'estensione orizzontale, diciamo così, della capacità di accumulazione. Oggi il capitalismo riesce a valorizzare delle attività che prima non erano valorizzate. Non soltanto, questo è implicito, perché dico, se oggi nel lavoro io utilizzo anche quelle capacità di vita, cognitive, cerebrale e razionale, è chiaro che questo aumenta la potenza dell'accumulazione, la estende. Questo, ma non solo, questo non consente quindi soltanto un aumento delle capacità di sfruttamento per ogni singolo essere umano. Perché prima almeno ti sfruttavo solo il braccio, ti sfruttavo solo i nervi. Tu eri nella catena di montaggio, come la classe operaia in paradiso, dicevi una tetta un culo, con la testa pensavi a tutt'altro, no? E facevi funzionare il corpo. Certo che il corpo e il cervello sono legati, eccetera, eccetera, lo sappiamo, però era il lavoro manuale, il lavoro di corpo. Adesso tu hai il lavoro di corpo, il lavoro di nervi, il lavoro di cuore, il lavoro di testa. La tua persona, la tua interezza diventa bacino di possibile potenziale sfruttamento. E quindi abbiamo un aumento dello sfruttamento sulla persona. Contemporaneamente abbiamo anche un'estensione della base di accumulazione, perché una serie di attività che prima erano improduttive dal punto di vista capitalistico e quindi non remunerate, diventano produttive e entrano nel meccanismo di valorizzazione. Il classico esempio è il lavoro di cura, su cui farete i seminari, per cui non mi dilungo. Produzione e riproduzione oggi è un tutt'uno. Oggi il lavoro improduttivo dal punto di vista capitalistico, si intende, quello che produce plus valore, non so neanche se si può dire che oggi esista un lavoro improduttivo, forse. Tant'è vero che quando negli anni 90 era stato scritto un manifesto, quello che Paolo se lo ricorderà sicuramente perché la metà l'ha scritto lui, o anche quasi tutto, quello degli IWW, Immaterial Workers of the World, si diceva una frase che io da lì ho preso e dico sempre anche agli studenti che rimangono sempre un po' scioccati, dicendo che oggi il disoccupato non è uno che sta lì a girarsi i pollici, non lavora in produttivo. Oggi disoccupato è uno che svolge un'attività produttiva, non remunerata e non certificata come produttiva. perché comunque all'interno di un meccanismo, il meccanismo di consumo è produttivo. Adesso qui si vogliono fare tanti esempi, un processo di brandizzazione, quando io vado in un supermercato e do una tesserina, nel momento in cui mi do una tesserina sto consumando, sto pagando la cassa, sto facendo la cosa che apparentemente è la cosa più opposta, che nega la produzione, perché il consumo distrugge la produzione, quindi è una cosa antitetica, quindi ci come fai a dire che io vado lì, sto pagando per consumare, nel momento in cui consumo distruggo la produzione, faccio una cosa, la distruzione che diventa produttiva. No? Ma nel momento stesso in cui io do la tesserina, faccio un esempio, io fornisco delle informazioni, è nata una branca della statistica che si chiama data mining, appositamente sullo di questo, queste informazioni vengono utilizzate grazie alle tecnologie informatiche, no, per costituire banche dati sulla base della quale si determinano i rapporti con i fornitori, si decide la scaffalatura dei prodotti nel supermercato, perché un prodotto che all'altezza occhi viene più venduto, se uno invece è in sotto, in fondo non viene neanche visto, non viene venduto, quindi sono tutta una serie di modelli di organizzazione molto sofisticati nella grande distribuzione, che è una distribuzione tendenzialmente taylorista. E questo inconsapevolmente, senza saperlo, il consumatore è parte integrante del processo di valorizzazione della grande distribuzione. Non soltanto perché è schiavo del consumo del logo, eccetera, ma anche quello, ma anche più concretamente, molto più brutalmente nella sua operatività quotidiana. Così come è produttivo uno che guarda la televisione. E si potrebbero fare altri esempi, per dire. Quindi si è estesa la base della lavoro produttivo, fino a quasi inglobare forse tutto, tutto. È quello che potremmo dire, e finisco poi su questo punto, che forse noi siamo col passaggio del capitalismo cognitivo, siamo passati alla compresenza di forme di sussunzione reale, tipiche ereditate dal sfruttamento dell'intensità lavorativa alle macchine, quindi di tipo fordista, ma siamo anche in presenza di forme di sussunzione formale, cioè l'espropriazione del prodotto dell'attività lavorativa apparentemente fatta in libertà. Perché io... E allora, oggi siamo in compresenza, forse siamo quella che potremmo definire una sussunzione totale, che è superiore alla sussunzione reale e alla sussunzione formale. Su questo c'è discussione, eh? Perché per esempio Carlo Vercellone, lui più sostiene che è più forte l'elemento di sussunzione formale di quella reale, per cui, però con condizioni differenti. Però, perché ci sono delle analogie, pensate oggi il lavoro di apprendimento, uno potrebbe dire, è il lavoro dell'apprendista. L'apprendista artigiano nella situazione pre-tayloristica era quello che andava a bottega, imparava, cumulava esperienza e oggi in realtà sfruttava delle economie di apprendimento che però erano legate essenzialmente a un'abilità manuale corporea. Oggi c'è un apprendistato continuo, c'è il long life learning, c'è stato a Vienna la giusta manifestazione giorni fa, no? sul processo di Bologna e tutto il resto, del lifelong learning, dove ovviamente però l'apprendimento non è puramente manuale, ma è un apprendimento complessivo. Quindi. Questa condizione lavorativa è una condizione fortemente individualizzata. Questo è il punto su cui volevo arrivare, cioè favorisce processi di individualizzazione dei rapporti di lavoro, perché non c'è niente di più individuale, più flessibile, più dinamico del linguaggio. Il linguaggio è individuale, ognuno di noi parla in maniera diversa. E la struttura capitalistica è in grado di mettere a valore le differenze, cioè invece di omogeneizzare, disomogenea, frammenta, la frammentazione è funzionale a cogliere, a espropriare, a captare tutto ciò che, tutte le individualità che vengono da ciascuno di noi espresse, come soltanto semplicemente come voglia di vivere. La capacità del controllo è far sì che queste individualità diano origine a processi di individualismo. E tra individualità e individualismo c'è una bella differenza. Per l'individualità è la nostra ricchezza. Io sono contento di essere unico sulla Terra, fatto bene o male così. E sono contento di incontrare un'altra persona che è diversa da me, perché se fossimo due robot, sai che palle, no? Con cui interagire, litigare, scazzarci o amarci. E questo mette in moto una socialità. Ma se la socialità viene rotta nel momento stesso in cui questa individualità, questa differenza mette in moto un meccanismo di individualismo, vita mia, mers tua, una connotazione hobbesiana della socialità umana, no? Allora è chiaro che su questa frammentarietà si gioca la possibilità di controllo. E oggi la contraddizione è tra cooperazione sociale, individualizzazione dei rapporti di lavoro e quindi gerarchia che ne scaturisce. La condizione di precarietà non è altro che questo. Per questo la precarietà è generalizzata, è strutturale ed è una precarietà esistenziale, non del lavoro. È generalizzata perché noi siamo all'interno di un meccanismo che è difficile rompere, qui c'è tutto il ruolo dell'informazione, degli immaginari, del controllo sociale, in cui il tempo e lo spazio sono di fatto sotto comando, in un certo senso. Noi vediamo le telecamere che controllano lo spazio nei giardini, il tempo è ricattato, perché il tempo, la possibilità di avere tempo è quello che ti permette di avere libertà d'azione. Ma se tu non hai questa libertà di tempo perché sei sottoposto al ricatto del bisogno, perché sei precario, intermittenza di lavoro, eccetera, o magari ti sbatti come una biscia perché pensi di riuscire a diventare il più grande regista del mondo, o se lavori nel settore creativo della moda, abbiamo fatto appena una ricerca che abbiamo finito poco tempo fa sul lavoro, cosiddetto lavoro creativo della moda, che vengono di tutti e di più, però tutti hanno questo immaginario di diventare grande stilista, senza rendersi conto che uno riesce ad arrivare perché ce ne sono 99 che fanno la fame, perché se tutti 100 diventano grandi stilisti, nessuno è un grande stilista. Questo è il meccanismo perverso di ricattabilità e di controllo. Per cui la forma del comando oggi è controllo sociale da un lato, ma soprattutto istigazione all'autocontrollo, e non c'è niente di più vantaggioso dell'autocontrollo e dell'autorepressione, perché costa zero e poi nessuno si può lamentare di essere stato bastonato, perché quando uno prende una bastonata la prima volta sta zitto perché ha paura, la seconda manganellata inizia a digrignare i denti, la terza manganellata dice adesso mo basta, mi sono di coglione, te le do io, e allora nasce il conflitto. Perché il conflitto non nasce sulla precarietà? Perché c'è un problema di auto controllo, autorepressione. Su questo si potrebbe fare un solo seminario, no? Comunque penso che ci siamo capiti. Da qui viene fuori la proposta, concludo, che allora come si può intervenire su questo meccanismo produttivo? Allora, la posizione che fa scandalo è che tu dici non si può intervenire. Per una persona che ha un pensatore che ha una tradizione marxiana, conflittuale di sinistra, eccetera, dice come? Non si può intervenire sul conflitto capitale-lavoro, perché qui stiamo parlando della nuova forma, delle nuove modalità del conflitto, del rapporto capitale-lavoro. Non si può intervenire. Dice, no, la risposta è, in maniera provocatoria, no, così come stanno le cose, utilizzando le forme, gli strumenti e le modalità comunicative che abbiamo ereditato nel Novecento, non riesce a cavare un ragno dal buco. È tempo perso, volonteroso, ti diamo la medaglietta per tutto quello che vuoi, puoi fare 27.000 scioperi, blocchi, salire sui tetti, sarò molto schietto su questo, no? Per impedire la chiusura di Termini Imerese, a Milano abbiamo fatto tutto, presi dalle 5 del mattino, siamo andati lì per impedire di chiudere l'Alfa ha resistito 20 anni, ha chiuso ieri, però noi tutti sapevamo che avrebbe chiuso. Però puoi fare una testimonianza, che va bene, perché crea comunque un elemento che ha un suo pathos sociale, eccetera, rilevante politico. No. Però allora bisogna intervenire sul rapporto capitale-lavoro, magari non prendendolo di petto in una condizione del genere, a meno fin tanto che non si sviluppi una capacità di coscientizzazione, di soggettività che si sviluppa, cosa che, d'altra parte voglio dire, l'operaio massa ci ha messo una ventina d'anni prima di prendere coscienza che era un operaio massa. Quindi ci vuole anche del tempo da questo punto di vista. No? Bisogna intervenire forse sul lato della distribuzione. Strumentalmente dico questo. Da qui la proposta del basic income è una proposta riformista, se intendiamo riformista tutte quelle proposte che non vanno a intaccare le condizioni del rapporto capitale-lavoro, però anche gli elementi di sovversione. Innanzitutto c'è un fatto culturale. Il basic income un reddito di base o un reddito di esistenza. Preferisco chiamarlo reddito di esistenza e non più reddito di cittadinanza, anche se la colpa è mia perché ho scritto gli incentivi sul reddito di cittadinanza. Faccio autocritica, perché il concetto di cittadinanza, come sapete, è molto scivoloso, per cui all'epoca non era così, il problema dei migranti non era così forte, quindi chiamavo reddito di esistenza, o reddito di base. È innanzitutto uno strumento non di tipo assistenziale, non ha nulla a che fare con gli ammortizzatori sociali, con le politiche di welfare tradizionali, niente. Il reddito di base è una forma di remunerazione. E la remunerazione, la corretta definizione del reddito di base, è la remunerazione di quell'eccedenza di capacità lavorativa produttiva che non viene certificata dalla struttura giuridica, giuslavorista, contrattuale esistente. Basta. È la restituzione di un mal tolto. La lotta per il reddito di base vuol dire che la tua capacità produttiva, la tua cooperazione sociale, che ti viene solo parzialmente, in seguito ai livelli di sfruttamento esistenti di cui parlavamo prima, riconosciuta e quindi remunerata, no? Il reddito di base è quella che ti consente di che questa tua capacità di valorizzazione venga remunerata. È esattamente la richiesta di incrementi salariali in una logica fordista. E questo però, dato che la capacità produttiva, la capacità di valorizzazione, a questo punto prescinde dalla condizione lavorativa, perché anche l'inoccupato, il disoccupato è produttivo, il precario è produttivo, anche il lavoratore a tempo indeterminato è produttivo, in diversa maniera, con diversi livelli di certificazione e remunerazione, però c'è la totalità dell'attività produttiva, in questo senso omogenizza le diverse condizioni soggettive particolari. Cioè il fatto di essere coscienti, siamo tutti all'interno di un meccanismo produttivo e quindi tutti dovremmo essere comunque in qualche modo remunerato, è già un primo passo. Poi decidiamo quanto, come, eccetera. Ma però già il fatto per decidere, per discutere quando, quanto, come, da chi, prima dobbiamo essere coscienti che dobbiamo essere remunerati, se no è un passo ineludibile. Da qui il dibattito sul basic income, il fatto del BIM, il basic income network, piuttosto che altre cose, vogliono cercare di portare avanti questa, ed è una battaglia culturale, riconoscere che il lavoro deve essere pagato. Noi siamo in un contesto che è paradossale, abbiamo delle situazioni che vengono considerate lavorative non pagate come gli stage, e voi ne sapete qualcosa, no? Ma abbiamo anche situazioni di gente che lavora e sono 5 mesi che non prende lo stipendio, che è una cosa che soltanto 20 anni fa era impossibile immaginare, era impossibile, già questo ti dà l'idea di come si sono modificati i rapporti di forza e di come nasce tutto il problema della rappresentanza delle forme del lavoro oggi, perché se succede questo la colpa non è del padrone, succede questo la colpa è di chi dovrebbe difendere e rappresentare questi lavoratori, che non è capace di fare il suo mestiere, presumo, perché il padrone cerca, sappiamo che il singolo padrone cerca di pagare il meno possibile i suoi operai, se non c'è. Deve essere messo in condizioni di non riuscirci perché c'è una legge, perché c'è una contrattazione, c'è un contratto, c'è qualcosa, e quindi quindi il primo punto è basic income come remunerazione, e questo credo che sia l'elemento principale. Poi altri elementi è che il basic income deve essere dato su base individuale, perché è ovvio nel ragionamento che facciamo prima che è la soggettività singola, è l'individualità che viene messa al lavoro, quindi dato che in Italia, in qualsiasi paese europeo questo sarebbe dato per scontato, ma in Italia bisogna ricordarlo perché sapete che l'unità sociale di riferimento è la famiglia, e quindi le leggi, per esempio la legge Campana sul reddito, dà i soldi su base familiare, non su base individuale. Due, altra caratteristica, il reddito di base deve essere dato ai residenti, cioè tutti coloro che abitano nel territorio, nel bacino che prendiamo in considerazione. Cioè immaginiamo un intervento di tipo territoriale, perché non puoi partire a livello globale, partiamo a livello territoriale, tutti quelli che abitano, non mi interessa se sono cittadini o non cittadini, bianchi, belli, brutti, eccetera. Sono essere residenti. Terzo punto, il reddito di base deve essere incondizionato, in quanto remunerazione. Non è che ti devo dire, ti do dei soldi, però tu devi seguirmi il corso di formazione, devi fare questo, devi sottostare questo, devi fare quest'altro. Se tu sei già produttivo, quanto remunerazione, il reddito di base, non è che quando uno prende il salario o uno stipendio alla fine del mese o consegna un lavoro e viene pagato a ritenuta da conto dopo 6 mesi di lavoro, gli dico, beh, oggi vuoi venire a prendere i soldi, allora devi fare qualcos'altro di più. Non avrebbe senso questo, no? Quindi l'incondizionabilità sta nel riconoscere, sta nel fatto che il basic income è attività di remunerazione. Tu hai già dato, non devi dare in più. E quarto punto è che il basic income deve essere pagato, deve essere una porzione della ricchezza socialmente prodotta. E quindi se c'è un'istituzione che deve avere come scopo l'erogazione di un basic income, questa deve essere finanziata attraverso la fiscalità generale. Questo è un punto molto importante, perché in Italia innanzitutto noi abbiamo che le forme di sostegno al reddito sono pagate attraverso i contributi sociali e non la fiscalità generale, cioè sono pagate dall'INPS, cioè cassa integrazione, segni di mobilità, sussidi di disoccupazione, pensioni di invalidità, pensioni sociali, eccetera, che sono tutte erogazioni di reddito, no? A cui non corrisponde una contribuzione effettiva. Corrisponde un'eventuale contribuzione perché la legge te lo obbliga, ma non c'è nessuna giustificazione economica, fiscale che ciò avvenga. Perché quello che dovrebbe essere soggetto alla contribuzione sociale sarebbero soltanto le quote di salario differito. Il concetto di salario differito vuol dire io prendo un certo stipendio e ho un accordo, un patto con un ente, lo Stato che eroga i servizi sanitari, cioè una quota, il 10% del mio stipendio, te lo do perché tu mi devi garantire questo servizio. Oppure io ti do una quota del mio reddito e tu me lo tieni da parte e poi me lo ridai sotto forma di pensione. Però se lo Stato, colpo di bacchetta magica, sparisse e non svolgesse più queste funzioni, quei soldi lì non è che io continuo a pagarli, a questo punto rientrano nel salario effettivo del lavoratore. Ma un intervento sul reddito non deve essere pagato coi contributi sociali dei lavoratori e datori di lavoro, deve essere a carico una somma destinata a questo scopo che è parte della ricchezza sociale prodotta e che viene raccolta dallo Stato, dall'ente, dall'Europa, dal municipio, da quello che volete, sulla base del sistema di tassazione esistente. Che in Italia si basa, bisogna fare una netta separazione fra assistenza e previdenza o contribuzione, che in Italia non esiste, cioè legalmente esiste perché è stata introdotta con la riforma Dini del 96 questo, ma non è stata mai applicata, manca i decreti attuativi di questo punto. Seconda cosa, bisognerebbe, e qui entra tutto il discorso della riforma del welfare, operare perché facciamo una discussione su quale può essere un welfare adeguato a quelle che sono le condizioni di accumulazione e di valorizzazione che prima velocemente abbiamo descritto. Un welfare dovrebbe essere oggi basato su due punti. Una cassa sociale per il reddito, che interviene sul lato distributivo, riconoscendo l'attività produttiva di tutti i soggetti partecipanti, e oggi basta vivere per partecipare, e la garanzia di accesso a dei servizi sociali e ai beni comuni necessari per svolgere l'attività produttiva, di vita, eccetera. Quindi accesso a internet, accesso alla cultura, accesso all'informazione, accesso a avere la possibilità di avere casa, accesso alla mobilità, accesso alla socialità, oltre che ai beni primari, quali sanità, istruzione, un'aria pulita, una struttura ecocompatibile, eccetera, eccetera. Questi sono due pacchetti, da una parte garanzia di continuità di reddito, cassa sociale per reddito, dall'altra parte accesso a una serie di beni, sono i due punti, bastano questi, per costituire due pilastri di quello che deve essere un welfare che dovrebbe garantire, diciamo, le condizioni, ma queste sono condizioni civili, non è rivoluzionario. In questo senso la cosa è molto riformista, come dicevo prima. Pagate questi soldi con un bilancio ad hoc. Un'altra cosa importante che sarebbe da fare in Italia, se facciamo delle sperimentazioni a livello regionale di welfare di questo tipo, che possiamo chiamare welfare del comune, common fare, perché va oltre, e poi ci serve tutto un discorso per andare oltre la dicotomia proprietà privata e proprietà pubblica, perché la conoscenza è un bene che non è privato, né pubblico, ma questo non parlo di questo, no? Sarebbe quello che ci deve essere un bilancio autonomo di welfare. Oggi gli interventi di welfare, di sussidiarietà, vengono fatti un po' utilizzando l'INPS, un po' utilizzando gli assessorati, i capitoli di spese di qua. Invece un bel bilancio unico, autonomo, dove ci sono le entrate e le uscite. Stop. Tagli trasversalmente gli assessorati, questo è un problema politico, non verrà mai accettato a livello politico, perché ogni assessorato ha un suo centro di potere, un potentato economico, quindi immaginate, ma stiamo ragionando dal punto di vista teorico, ma anche dal punto di vista anche di input propositivo. Sono sicuro che se iniziamo a ragionare sul il tipo di imposizione fiscale esistente in Italia, iniziamo a ragionare per esempio sul fatto che un sistema fiscale deve essere, per essere un sistema fiscale moderno, voi sapete che questa è una cosa che si insegna in economia, ma un sistema fiscale si basa sulla tassazione dei fattori produttivi. Da qui viene costruito un sistema, cioè bisogna partire da zero, costruire un sistema fiscale, dicendo benissimo, diciamo, quali sono i fattori produttivi che oggi sono rilevanti nel sistema economico in cui stiamo? Sono A, B, C, D. Benissimo, allora A, B, C, D sono i pilastri, sono i cespiti di reddito su cui si stabilisce la tassazione. Questo è il primo principio. Tutti i fattori produttivi devono essere tassati e tutti i fattori produttivi devono essere tassati in maniera progressiva. Allora, se partiamo da queste due semplici, banali considerazioni, noi avremmo che in Italia noi abbiamo un sistema fiscale, come in tutta Europa, che tassa il lavoro dipendente, perché era il fattore produttivo principale all'epoca fordista, e la proprietà dei mezzi di produzione, che era, cioè, l'IRPEF e l'IRA, le due tasse sull'imposta sui redditi. E poi c'è l'imposizione sul consumo, che è l'IVA, imposizione indiretta. Ma oggi i fattori produttivi quali sono? La proprietà intellettuale viene tassata? No. Le plusvalenze e la proprietà patrimoniale finanziaria viene tassata? No. L'utilizzo dello spazio come fattore produttivo viene tassato? No. O viene tassato in maniera varia, diversa? Allora, benissimo, azzeriamo tutto questo, stabiliamo come programma per i prossimi 10 anni, no? Di fare una serie di interventi su forme di tassazione che ci sono. E facendo velocemente dei calcoli, il problema della sostenibilità economica finanziaria di un reddito di base non c'è. Non c'è. E qui il discorso diventerebbe più complicato, più tecnico, però non è un problema risolvibile da questo punto di vista. La questione, e qui concludo, scusate se sono stato troppo lungo, la questione è che una proposta di questo genere avrebbe due effetti che sono gli elementi sovversivi. No? Il primo effetto è, potrebbe creare un elemento di ricomposizione delle singole società lavorative, perché non interviene sul singolo caso della condizione lavorativa frammentata, per cui se intervengo sui lavoratori precari della grande distribuzione non posso intervenire sui lavoratori precari della scuola, perché si interviene ad hoc su ogni singola condizione lavorativa, spesso non sempre definibile, quindi molto, e quindi non percepibile. Intervenire dicendo garantiamo una continuità di reddito, magari inizialmente partire da un certo livello, poi vediamo come vanno le cose eccetera, garantiamo una determinata serie di servizi, questo a prescindere, in maniera incondizionata, a prescindere dalla condizione lavorativa, quindi sganciato dalla condizione professionale eccetera, rompe la differenza che ogni specifica situazione lavorativa per definizione comporta. E questo è pericoloso. La seconda cosa, che è ancora più pericolosa, è che garantire un reddito, a prescindere dalla condizione lavorativa, fa venire meno o sminuisce di molto quello che è una delle forme di controllo del lavoro più elevate, cioè la necessità del lavoro per vivere. Come diceva Marx, sempre, credo forse nel primo libro del Capitale, diceva i lavoratori sono liberi, dopo la rivoluzione francese, di decidere se lavorare o non lavorare. perché dopo la rivoluzione francese il fatto che tu sei citoyen a prescindere dalla condizione lavorativa, quindi sei cittadino, hai i tuoi diritti di cittadinanza a prescindere dalla condizione lavorativa, vuol dire che tu hai un grado di libertà. Questo vale per tutti. Beh, noi abbiamo la Bossi-Fini che ci riporta prima della rivoluzione francese, questo è il paese in cui stiamo. Vabbè. E quindi formalmente tu hai una serie di libertà, non c'è la coazione al lavoro. Però Marx aggiungeva, sì, però i lavoratori sono costretti a farlo, perché? Per vivere, perché c'è la credibilità del bisogno, quella è la leva. Se tu garantisci la possibilità di vivere a prescindere dalla condizione lavorativa, qui nascono dei problemi nell'organizzazione gerarchica del sistema capitalistico. Per questo punto tu ampli o ti incuni un diritto di scelta, un diritto di autodeterminazione individuale, che può mettere in moto meccanismi di rottura con quella che è l'organigramma necessario perché il sistema sia in grado di perpetuarsi. E questo potrebbe creare, ed è questo è il motivo principale per cui un intervento, seppur utile magari in tempi di crisi, compatibile anche con i processi di accumulazione, perché una garanzia di un reddito più stabile consentirebbe di sfruttare al meglio l'economia di apprendimento, l'economia di rete, lo sviluppo della conoscenza, la partecipazione a servizi di istruzione aumenterebbe il livello medio della cultura, questo metterebbe in moto delle sinergie positive, le esternalità positive potrebbero essere più facilmente colte, quindi dal punto di vista anche capitalistico sarebbe, favorirebbe e incrementerebbe il processo di creazione di valore. Però per ottenere questo tu perdi il controllo sulla destinazione del processo di valore che crei. E allora, come diceva Kaleski, è meglio un po' avere profitti un po' più bassi e una disoccupazione un po' più elevata, si scriveva Kaleski negli anni 30, quando c'era l'alta disoccupazione. Kaleski è un economista polacco, che dice gli imprenditori sono disponibili ad avere profitti, a occupare meno gente, produrre di meno, avere profitti quindi più bassi, ma con un po' di disoccupazione, perché la disoccupazione come esercito industriale di riserva è uno strumento di controllo della forza lavoro. Allora io preferisco avere una crescita più bassa, non garantire un reddito a tutti, perché la precarietà, il bisogno del reddito è lo strumento di controllo della forza lavoro. Quindi lo strumento di comando sociale. E allora questo è da qui, perché nel momento stesso in cui tu riesci a entrare aumentando il diritto di scelta, il diritto anche di rifiutare il lavoro, e a questo punto tu entri per la porta di fianco, non per la porta principale ma dalla finestra, diciamo così, entri nel rapporto capitale lavoro. E di fronte alla domanda, ma se ci fosse una cosa del genere, chi farebbe i cosiddetti lavori di merda? Scusate l'espressione. Ho detto, questa è la stessa domanda che mi veniva fatta all'inizio del Novecento, quando c'era una campagna per riduzione dell'orario di lavoro a 8 ore, su 6 giorni, e i giornali borghesi dell'epoca, ci sono degli articoli su Corriere della Sera che sono andato a rileggermi, all'inizio del Novecento, che dicevano sì, ma se si riduce l'orario di lavoro questo è dannoso per gli stessi operai, perché se loro lavorano meno, producono meno, c'è meno ricchezza e quindi loro avranno meno briciole da spartire. E poi si ubriacano di più, poi c'è tutto il discorso etico, cioè, certo, questo non c'è. Ma dal punto di vista economico il ragionamento conseguenziale era, se tu lavori meno, produci di meno, se produci di meno c'è meno ricchezza e tu guadagni di meno. E quindi non ti conviene, anzi, vuoi guadagnare di più, lavora di più, che è lo stesso discorso che mi hai fatto oggi, né più né meno, è passato un secolo ma siamo sempre lì. Poi ci si dimentica di sottolineare che in seguito all'introduzione dell'orario di lavoro che ha obbligato a una ristrutturazione tecnologica che ha dato origine allo sviluppo, non soltanto questo ovviamente, ma tutta una serie di altre cose, a un periodo di aumento della produttività in condizioni di orari decrescenti come mai si è verificato nella storia del capitalismo. Cioè noi veniamo da 100 anni di riduzione costante, più o meno costante, ma tendenzialmente costante dell'orario di lavoro, e non è un caso che sono 25 anni che l'orario di lavoro sta aumentando. Questo, basterebbe questa semplice dire per dire il sistema di accumulazione oggi non è equiparabile o simile a quello precedente. Perché altrimenti come si spiega? È soltanto colpa dei sindacati venduti e dei padroni cattivi che ti fanno lavorare di più e tu sai? No, questo è. Metterla sempre sul fatto che i rapporti di forza sono sfavorevoli non funziona. se i rapporti sono sfavorevoli, si sa anche vero, ma la colpa è tua, perché non sei capace di interpretare quello che sta avvenendo, e quindi... Però allora, avete capito, tutte queste problematiche legate al basic income, ma il basic income non è uno strumento, non è un fine, e non è l'unico strumento, adesso ci siamo concentrati su questo perché è il tema, però ha una valenza politica non indifferente. Io mi chiudo qui perché sono già in mezzo. Sono domande, interventi, uno alla volta, magari facciamo subito le risposte. No, io volevo chiedere due volte. La prima, lei ha parlato delle tecnologie ICT legate allo sviluppo, insomma, del capitalismo cognitivo. Noi sappiamo che la diffusione di queste tecnologie è legata alla dimensione dell'impresa, cioè quanto più l'impresa è grande, tanto più queste tecnologie vengono diffuse. Secondo lei vale lo stesso per il capitalismo cognitivo in generale oppure no? Cioè, la mia domanda è, cioè, secondo lei il capitalismo cognitivo attacca in situazioni in cui c'è maggiore concentrazione industriale oppure pensa che si tratti di due cose indifferenti l'una all'altra? Poi la seconda è, lei ha detto che la teoria del valore marginalista oggi, cioè, non ha più senso in quanto non c'è una scarsità della proprietà intellettuale, però prima aveva detto che il capitalismo cognitivo è una sorta di ritorno al qualitativo, però non può esserci che c'è bisogno di una certa qualità intellettuale, quindi c'è scarsità di un certo tipo di risorse intellettuali e quindi il valore, no, anche del capitale cognitivo è dato da questa scarsità rapporto alla domanda. Raccolgo qualche domanda poi le faccio una risposta se ci sono altre domande. Dunque, no, io in realtà volevo chiedere magari un approfondimento sulla parte riguardante il restante del lavoro, perché insomma, io ho fatto l'intervista, studio un po' le leggi e quella cosa che mi sono occupato non è vero che non produce. Sì, all'inizio mi aveva colpito, ma mi aveva colpito quando avevo letto la legge Biagi, la legge 30, che a un certo punto dà una definizione di lavoratore bellissima, che dice che il lavoratore è qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di lavoro, e quindi da questo punto di vista effettivamente, come si diceva una volta, magari andare a studiare i reazionari ci permette anche di capire meglio il nostro punto di vista, perché se il legislatore, quel legislatore che chiama quella legge, legge di Biagi, dà quella definizione di lavoratore, effettivamente forse è, diciamo, chiarificatrice di molti aspetti che ci siamo detti oggi del cambiamento paradigmatico del capitalismo che non magari molte altre analisi. Ora, il punto qual è? Il punto è che forse questa definizione di lavoratore ha effettivamente la possibilità al riconoscimento di un reddito di cittadinanza, un reddito sociale, a me piace più un bioreddito, forse come riprendendo di Scamarazzi. Però mi domandavo se in qualche modo ci siano anche degli altri ulteriori ostacoli simbolici all'introduzione di questo bioreddito. Tu facevi l'esempio della moda, no? E della componente spietata che c'è nei determinati campi, e uno che deve diventare grande artista affinché gli altri 99 facciano la fame. Mi domando però se un ulteriore ostacolo simbolico rispetto alla strutturazione produttiva sia anche l'etica del lavoro, cioè in qualche modo il reddito di cittadinanza e il bioreddito trova un ostacolo simbolico culturale, non saprei come definirlo, molto forte nell'etica del lavoro. E poi una seconda domanda, ma questa magari è un po' più tecnica. In questo passaggio che c'è tra fordismo, post-fordismo, capitalismo cognitivo, in particolar modo ancora nei rapporti di fabbrica, quello che però mi è sembrato una tendenza costante, soprattutto agli anni 90, all'inizio degli anni del nuovo millennio, è questo freno che comunque i sindacati sono riusciti ad avere rispetto a certe forme di contrattazione diffusa, addirittura a livello aziendale. Questo effettivamente mi domando se non sia in qualche modo un bene, un male, una dinamica che è un po' contraddittoria rispetto all'andamento, al trend generale del passaggio di paradigma che c'è stato soprattutto negli anni 90 e soprattutto come la valuti. Inizio a rispondere. Non so se qualcuno vuole fare qualche altro. Le domande sono toste. Magari Allora, il vantaggio delle tecnologie di informazione e comunicazione sono che hanno dei costi di accesso molto bassi, cioè hanno delle barriere all'entrata molto basse. Rispetto alle barriere all'entrata, stiamo parlando in termini relativi, rispetto alle barriere all'entrata, per esempio, delle tecnologie tailoriste. I costi di ammortamento e l'acquisto di una catena di montaggio è di gran lunga più elevato che dotarsi per le attività di funzione aziendale, per le attività produttive laddove esistono i software esistenti, di una struttura di server all'interno di un'impresa che ha un costo tutto sommato limitato. Cioè con un 10.000 euro uno è in grado di informatizzare una piccola impresa, voglio dire, non è che oggi come oggi con i costi che ci sono attuali, quindi non è questo un problema. Il problema che lega invece concentrazione a tecnologie informatiche non è tanto sull'ambito della diffusione, ma è sull'ambito della generazione di nuove tecnologie. Lì ovviamente è chiaro, quello che è la barriera all'entrata, che possono solo avere le imprese di media e grande dimensione, è avere una capacità di generazione di conoscenza autonoma e quindi brevettabile, e quindi, su cui puoi far valere poi i diritti di brevetto, quindi avere un laboratorio di ricerca e sviluppo per intenderci. Allora già i costi per avere un laboratorio di ricerca e sviluppo eccetera iniziano a essere elevati, quindi questo è una barriera all'entrata. Quindi in linea di massa, poi da settore a settore, da caso a caso ci sono poi situazioni differenti. Perché ci sono tanti altri variabili che possono intervenire, però in linea di massima credo che per quanto riguarda lo sfruttamento delle economie di apprendimento che generano tecnologia ad hoc, lì la dimensione conta, a meno che però non si riesca a sfruttare il lavoro altrui, nel senso, esiste un general intellect nell'ambito a livello università, nell'ambito territoriale eccetera, che io riesco a captare e non c'è bisogno che io sia stesso a crearlo, perché già lo trovo nella società. Non è facile che questo avvenga, però è possibile. Invece per quanto riguarda la diffusione, credo che i problemi di barriera all'entrata e di dimensione siano tutto sommato sufficientemente limitati. Allora, scarsità di qualità intellettuale. Per rispondere a questa questione bisogna fare il discorso di introdurre una tassonomia della conoscenza. Però il mio legame era, il mio riferimento alla teoria del valore utilità, la teoria marginalista, che era che voi sapete che per la teoria del valore utilità il valore di una merce è direttamente proporzionale al suo grado di abbondanza o di scarsità. Questo è il motivo, alla domanda di Smith, la ricchezza di nazioni, ma perché un diamante vale, lui faceva proprio il caso del diamante se non ricordo male, vale 100.000 volte di più di una partita di grano, quando il grano è molto più utile per la sopravvivenza umana del diamante, la risposta che viene data alla fine dell'Ottocento dai primi teorici marginalisti, da Jevons, Menger, eccetera, sono che il diamante è scarso e il grano è abbondante, al punto tale che ci sono dei beni liberi come l'aria che hanno costo zero. Tenete presente che su questo ragionamento la conoscenza, secondo le teorie paretiane del benessere, le teorie marginalistiche, una volta pagato il costo di produzione, la sua diffusione avrebbe un costo marginale che tende a zero e di conseguenza il prezzo dovrebbe essere zero. Quindi la teoria marginalistica, la teoria paretiana dell'equilibrio economico generale ottimale prevederebbe che la diffusione di conoscenza abbia prezzo zero. Questo per dire appunto che in questo caso è la stessa teoria marginalistica che ti dice che per quanto riguarda la conoscenza la teoria del valore utilità non è applicabile. Se noi pensiamo che questa merce oggi è fondamentale per descrivere il modello di accumulazione, ne consegue che la teoria del valore utilità, insomma, non c'è. Ci può spiegare alcune cose per quanto riguarda le materie prime, al limite, ma non più di tanto. Sul discorso della qualità intellettuale, lì il discorso è... Allora, il problema può essere risolto così. Come si risolve il fatto di consentire che la merce conoscenza abbia un prezzo positivo e non abbia un prezzo che tende a zero? Introducendo artificialmente della scarsità, attraverso un meccanismo classico di enclosures, sul modello inglese del 600, no? Da bene comune diventa bene scarso, artificiale, di conseguenza privatizzabile, sulla base della presunta efficienza della proprietà privata sulla proprietà comune in base al paradosso dei beni comuni, che però la Nobel, la Ostrom, che è andata alla Nobel quest'anno, lei fa una serie di ricerche che dice che questo paradosso, la tragedia dei beni, la tragedia dei commons, non è effettivamente verificabile sulla base di quelli che sono i comportamenti sociali umani. Ma al di là di questo, allora, la scarsità può essere fatta dicendo proprio sul livello di qualità, cioè il fatto che c'è una scarsità di qualità intellettuale può essere anche voluta. Io anzi sono assolutamente convinto di questo, sono convinto che la riforma universitaria del 3+2 sia finalizzata a introdurre elementi di scarsità all'interno di una classificazione dei saperi, per cui chi fa il triennio e si ferma la laurea professionalizzante, di come cavolo si chiama, non ho ancora mai imparato, e entra all'interno del novero di quelle che ha le competenze, una forma di specializzazione, che però sono facilmente traducibili e trasmettibili attraverso codici e procedure comunicative standardizzate, in maniera tale che la sua conoscenza non ha un valore, non si traduce in una capacità contrattuale di riconoscimento e quindi è qualitativamente bassa. Chi fa la specialistica, i 2 anni di specialistica, o chi fa poi studi di dottorato eccetera, entra in quel ristretto cerchio di esclusività dove ha le condizioni o gli strumenti o le metodologie di produrre conoscenza tacita, qualitativamente superiore e quindi scarsa e quindi questo prescindendo dalla discussione che è fondamentale in questo caso, in una caso viene dato un'enfasi su quali sono i criteri di qualità. Perché se i criteri di qualità sono quelli misurati alla funzionalità economica, è un dato. Se sono criteri di qualità per il benessere umano, è un'altra cosa, ma qui entriamo in un altro campo molto più. Il concetto di lavoro della legge 30, si dice questa cosa nella legge 30, però la legge 30 dice anche nel cappello introduttivo, richiamando espressamente il libro bianco di Maroni, da cui è una filiazione, a cui aveva lavorato lo stesso Biagi, tra parentesi, dice che l'idea di contratto di lavoro che è in mente la legge 30 e in mente il libro bianco di lavoro è uno scambio di lavoro fra pari, cioè il lavoratore e il datore di lavoro sono 2 soggetti economici, 2 agenti economici che scambiano alla pari. L'unico problema è che il lavoratore può essere messo in condizioni di subalternità in quanto quello scambio è viziato da quello che in economia si chiama simmetria informativa, cioè il datore di lavoro conosce di più e il lavoratore conosce di meno e questo può introdurre elementi di discriminazione e di non perfetta parità nello scambio e nel concetto di libero scambio. Allora, quello che significa? Significa, e questa notate, è la stessa posizione che c'è anche Chino, cioè il centro-sinistra, che è necessario perché lo scambio di lavoro diventa effettivamente uno scambio di mercato, chi ne ha scritto un libro, il lavoro è il mercato, lo dice questo, no? Occorre che il lavoratore sia dotato di quelle cose che gli mancano perché possa operare sul mercato del lavoro in condizioni di parità con il datore di lavoro e quindi deve avere una formazione professionale, dell'informazione, una serie di struttura di servizi a seconda dei casi eccetera. Questo è il caso che dovrebbe essere, quindi quando è disoccupato, se è disoccupato è perché non ha sufficientemente informazioni o non è in grado di sviluppare uno scambio, oppure perché si trova in condizioni talmente subalternità che gli vengono date le condizioni di lavoro pessime che lui non intende accogliere, non accettare. E allora nel processo, quindi anche chi è disoccupato in realtà in questo quadro viene visto come colui che sta dotandosi di quelle condizioni per entrare e attuare uno scambio di lavoro su basi paritarie. Tant'è vero che su questa teoria verrebbe, se la portiamo all'eccesso, come questo però Chino non lo fa perché si toglierebbe il pane dalla sua bocca, ma lo fanno le parti più destra, sarebbe dire occorrerebbe abolire il diritto del lavoro. Non c'è bisogno che ci sia un diritto del lavoro separato dal diritto civile, dal diritto privato quindi. Perché il diritto privato regola l'attività, il diritto privato e il diritto commerciale regola l'attività di scambio economico. Se lo scambio sul mercato del lavoro è uno scambio come fra due merci, fra agenti, uno scambio di una merce, fra agenti paritari, che bisogno c'è di un diritto ad hoc? E la tendenza è quella, se nel campo del giuslavorismo. Ma non è soltanto, poi uno sceglie, uno può, la scelta viene dettata secondo lo schema neoclassico dell'equilibrio economico generale sulla base delle preferenze e sulla base delle dotazioni iniziali che ogni agente economico ha, che sono tali però da non discriminarlo ex ante, e quindi la scelta che tu sei è il risultato ex post delle tue scelte. È molto sofisticata e truffaldina la cosa, eh? L'etica del lavoro è sicuramente una cosa simbolica, però non so fino a che punto sia così importante. Anche perché noi entriamo in un contesto, credo, in cui anche le nuove generazioni hanno difficilmente la percezione molto netta fra sia dell'etica che del lavoro, diciamo così, ma anche fra tempo di lavoro e tempo di non lavoro. Perché se tu entri in un mercato in cui sei tendenzialmente inizia a fare i lavoretti, servizietti, marchette, chi più ne ha più ne mette, no? Come ho iniziato io a fare a 14 anni? Perché all'epoca si cercava l'indipendenza della famiglia, quindi disponibile a fare tutto. Poi poco a poco lavorando, capisci che forse ti conviene andare a studiare, che è meno faticoso andare a lavorare, no? E poi inizi a avere questa parte di lavoro, poi alla fine quelli che sono più favorevoli all'etica del lavoro e quelli che quindi sono contrari a un reddito di base, a parte alcune categorie particolari che sono minimali, sono coloro che si trovano in una situazione attuale che gli permette di avere un buon reddito senza lavorare. Questa è la mia opinione personale, perché vivono una situazione di rendita, di cose, di non so. Di solito chi è sostegno al reddito di base è quello che lavora 10 ore al giorno, compreso il sabato e la domenica. A questo riguardo è interessante questo sondaggio che è stato fatto in Germania, perché esiste una rete per i redditi in Germania, questo ve lo racconto perché è divertente, che riguarda proprio il discorso del lavoro, non lavoro, etica. La domanda che è stata fatta su 2200, un campione di 2200 persone, significativo di una certa fascia che era la fascia fra i 20 e i 50 anni, quindi non tutta la popolazione, è stata fatta la seguente domanda: se tu avessi un reddito garantito, no? Sufficiente per vivere, mettiamo 1000 euro, no? Cosa faresti rispetto alla situazione che è attuale? E più del 70% ha detto: io continuerei a fare quello che sto facendo. Un altro 30% ha detto: ah, utilizzerei questo per fare qualcosa che mi piace di più. Nessuno ha risposto stare lì a girarmi i pollici. Anche perché dopo due giorni che sei lì a girarti i pollici, ti annoi talmente tanto, dici: fatemi, voglio fare qualcosa. Ma voglio fare qualcosa che piace a me, però. Non faccio qualcosa che piace a te. Allora, la cosa non finisce qui, perché la cosa divertente è che agli stessi è stata fatta la domanda: e tu cosa pensi che farebbe un altro che non sei tu? L'80% ha risposto: ah, smetterebbe di lavorare. cioè, interessante questa cosa qui, perché tu la persona dici: no, io, cioè, se ho una cosa che mi soddisfa minimamente, dico: sì, sono contento, più soldi, anzi, questo mi permette, eccetera. Però subito pensi: l'altro fa il fannullone. Ed è interessante, perché la domanda è stata fatta alle stesse persone. E quindi è come c'è la percezione dell'altro. Ultima questione, sulla contrattazione. Allora, da un certo punto di vista era inevitabile che con l'implosione della fabbrica taylorista e la diffusione su nodi di subfornitura della filiera produttiva, la contrattazione unica, collettiva, omogenea subisse delle torsioni, delle tensioni. C'erano due possibili strade. Una, cercare di mantenere, man mano che la struttura di subfornitura di filiera si sviluppava, due livelli di contrattazione, uno uno quello nazionale di categoria. Io personalmente sarei per l'abolizione dei contratti di categoria, perché oggi le categorie non hanno più senso. Le categorie di lavoro, chimici, alimentaristi, eccetera, non hanno più molto senso. Ci sono nuove divisioni del lavoro che dovrebbero andare a cogliere determinati segmenti del mercato del lavoro, che sono quelli oggi totalmente senza qualsiasi forma di tutela e rappresentazione sindacale. E sono quelli soprattutto a maggiore intensità cognitiva. Ma a parte questo, c'è la contrattazione collettiva di settore, contratto nazionale di settore, poi contratto di secondo livello, a livello d'azienda, e qui è stata seguita la contrattazione, è stato dato il là, laddove la contrattazione di secondo livello esiste, in Italia esiste molto poco, come sappiamo, perché la presenza di piccole imprese è elevatissima, no? È stata, invece di cercare di far sviluppare una contrattazione di secondo livello, che comunque tenesse conto della complessità della struttura o dello sviluppo della filiera produttiva, è stata fatta la scelta, non so quanto indotta, non so quanto politicamente studiata, non so quanto strategico, non quanto in buona fede, non so quanto in malafede, no? Di fare invece sviluppare per ogni nodo produttivo, laddove la possibilità di contrattazione c'era, delle forme di contrattazione ad hoc che hanno molto favorito la contrattazione individuale attraverso l'utilizzo dei premi di produttività. Questo ha avuto un effetto deleterio per la stessa capacità di rappresentanza sindacale, che questi accordi vengono firmati dai sindacati stessi. Ho degli esempi sotto mano di un po' di anni fa, perché adesso è passato questo periodo, no? In cui le contrattazioni di tipo individuale hanno favorito forti elementi di flessibilità oraria, flessibilità salariale, flessibilità di mansioni, aumentando quella frammentarietà della forza lavoro che poi incide negativamente sulla capacità contrattuale, sulla massa d'urto, anche laddove esistono forme di lavoro. Pensiamo per esempio alla storia degli accordi fatti nei call center. Quella è una cosa che grida vendetta a Dio, perché quando le prime imprese sono stati fatti i contratti, questi sono stati fatti i contratti legati a, dato che non esisteva il settore dei call center, si è riuscito a imporre il contratto metalmeccanico, che era quello più redditizio. Però dopo 2 anni, e se si passate al contratto del commercio, se non erro, poi al contratto di qualche cosa, e nel frattempo in tutta questa definizione di contratti, in buona parte poi delle persone che lavorano ai concerti non potevano accedere a questi contratti perché avevano tipologie contrattuali del tutto fuori dal contratto siglato, per cui era venuto fuori un caos totale, con una capacità che lo vediamo sugli occhi di, in un lavoro come quello di call center, dove diciamo la componente ripetitiva telorista, seppur molto diversa da quella della fabbrica, o almeno di massa, è presente. Perché quella attività di consente è molto relazionale, comunicativa, ci sono degli elementi di individualità, eccetera. Però il fatto che ci siano 2.000 persone che lavorano in un call center, che hanno entrate che non riescono mai a incontrarsi uno con l'altro, perché quello che c'è di fianco alla postazione è sempre diverso, e quindi c'è una frammentarietà anche spazia, fisica, relazionale. È completamente diverso dal caso dell'ATT, che negli anni 90 l'ATT ha imposto ai suoi dipendenti, che era una multinazionale di telecomunicazione americana, l'ATT, ha imposto ai suoi dipendenti l'obbligo della pausa caffè. Questa è una cosa interessante, che ricordo che avevamo studiato questo caso, perché la pausa caffè in Italia è l'emblema del francazzismo. No? Pausa caffè. Ci sono anche le serie televisive sulla pausa caffè, no? A macchinette, eccetera. Cioè il non lavoro. L'ATT obbligava la pausa caffè perché nella pausa caffè i lavoratori e le lavoratrici che lavoravano in maniera individuale applicate alla macchina comunicavano fra di loro, si scambiavano, si potevano parlare della fidanzata, dei motori di calcio, di baseball, non so, di football americano, quello che parlano gli americani, no, ma parlavano spesso anche di lavoro. E quindi i dubbi, i problemi, eccetera, entravano in circolo, e questo favoriva la soluzione di problemi legati all'attività lavorativa produttiva. E quindi era incrementava la pausa caffè, lungi dal diminuire la produttività la aumentava. A questo riguardo però mi sembra un esempio un po' nell'altra direzione, quello della marginalizzazione e dell'orientazione del tempo e del lavoro. Il caso di Google, che da quel che so io mi so poco di queste cose, non c'è un orario fisso di lavoro, né per, cioè insomma si può distribuire durante la giornata quando si vuole, né che c'è proprio un orario da rispettare, per cui immagino ci sia una discussione di lavoratori incredibile in quel caso. Ma queste sono tecniche che vengono fatte, come esistevano anche nelle imprese high tech, dove viene richiesta una forte partecipazione del lavoratore. E il fatto di dargli la fiducia che non deve timbrare il cartellino, che viene sempre visto come una cosa impositiva, comunque, si traduce non nel fatto che c'è molta dispersione dei lavoratori, questo sicuramente, ma si dimostra che il lavoratore, senza timbrare il cartellino, lavora di più che se timbrasse il cartellino. C'è un effetto. Della critica che veniva fatta quella principale, cioè che chi va a fare il lavoro disgraziato. Cioè, da una parte mi sembra abbastanza lampante il fatto che ovviamente quando il lavoratore ha la possibilità di scelta, in qualche modo può agire sulla sua capacità contrattuale, sulla sua forza contrattuale, però effettivamente almeno nel senso comune italiano il lavoro materiale non lo vuole più fare nessuno, quindi chi lo andrebbe a fare a quel punto? E seconda cosa, e dato che, come penso giustamente ha detto, che fondamentalmente è una battaglia culturale questa del BIN, in Italia e nel Lazio, non so se che c'è stata questa sperimentazione molto diversa da come lo intendete voi, chiaramente, perché non è assolutamente stato allargato. No, ma ci sono elementi positivi. Esatto, se secondo lei ce ne sono. C'è un'altra domanda. No, vabbè, allora, senza interrogarci in discussioni che potrebbero lunghissime, volevo chiedere qualcosa sulla crisi, in questo senso, cioè qual è il dibattito mainstream, comunque il tema capitale sulla crisi, e qual è il luogo su cui si gioca questo dibattito, cioè sull'uscita dalla crisi? Nel senso che stavo pensando, ad esempio, al ruolo degli economisti politici, appunto il tempo di Keynes, nel determinare poi l'uscita dalla crisi del 29. Oggi è lo stesso, questo c'entra anche con la visione cognitiva del lavoro, probabilmente, no? Quindi ti volevo chiedere prima di tutto questo. Poi appunto come rispondi, penso a chi dice che ritornerà un ciclo materiale, per esempio, visto che appunto da esterno al filosofo ho saputo che c'è questo, ci sono anche questo tipo di posizioni, e al caso Cina sostanzialmente, che comunque continua a avere un'economia molto di stampo quantitativo, anche se probabilmente con tutti gli elementi che prima ci stavi ponendo, nel senso la Cina va incontro a una crisi, cioè qual è il suo futuro in questo modo secondo te? Cioè, risposte chiaramente molto generali, perché appunto non ci sarebbe tempo per approfondire troppo. Tu vai, ciao, ci sentiamo. Ce n'è un'altra in fondo. Sì, io volevo fare solo due domande veloci. Una, se lei ha insistito molto appunto sul reddito di cittadinanza come battaglia quasi più simbolica che diciamo sui contenuti, e diciamo però cioè, mi viene il dubbio che se si fa una battaglia sul reddito di cittadinanza come diciamo anche come fattore di aggregazione di questa frammentazione di questa nuova classe di lavoro cognitivo, va bene, ma se poi non si fa una battaglia per un lavoro, per un reddito di base che sia però anche cioè, sufficiente alla sopravvivenza, non può rischiare di essere funzionale invece alla precarietà, nel senso di dire mi danno, lo Stato mi passa ogni mese un 200 euro, io con quelli non ci posso vivere, però a quel punto posso accettare un lavoro sottopagato a livelli insomma barbari, perché comunque ho quell'integrazione che mi viene dal reddito di base che mi permette. E no, la seconda domanda è che appunto lei prima diceva che gli organismi tradizionali della rappresentanza del lavoro utilizzano ancora categorie novecentesche, dove appunto come diceva lei non riusciamo a vedere poi un grande lavoro. No, mi chiedevo se la stessa categoria di rappresentanza non sia una di queste categorie novecentesche che sono entrate in crisi proprio. Però questo lo chiedo, non un dubbio di un minuto che ho, perché so che molti la mettono in crisi, insomma la domanda in poche parole dovrebbe essere, ma abbiamo ancora bisogno degli organismi di rappresentanza di quei partiti, sindacati, o ci sono spiragli per un'altra organizzazione? Facciamo. Io volevo dirle un paio di cose riguardo al reddito di base. Cioè, mi sono chiari quelli che sono gli aspetti di rivendicazione della vita di base, cioè noi in realtà svolgiamo un lavoro anche se non ce ne accorgiamo, cioè contribuiamo alla produzione sociale di beni immateriali, quindi è giusto che veniamo pagati. Però non mi sono molto chiari insomma, gli effetti diciamo, sovversivi di quello che è il reddito di base. Lei ne ha elencati due, cioè prima ha detto che il reddito di base opera la ricomposizione delle individualità perché non si limita alle singole condizioni lavorative. Però la mia domanda è, cioè siamo sicuri che dall'altra parte basta garantire un reddito per operare una ricomposizione dell'individualità? Cioè basta che ci sia una distribuzione del profitto per operare una socialità, per attivare una socialità fra gli individui? E dall'altra parte la mia domanda invece guarda al secondo punto che lei ha detto, insomma, il reddito di base garantisce una forma di reddito a prescindere dalla condizione lavorativa e questo fa sì che si possa venire meno la necessità di lavorare per vivere. Però poco prima abbiamo visto come in realtà il confine fra parte della vita dedicata al lavoro e parte della vita dedicata al non lavoro è venuto meno, cioè come attività lavorativa produttiva e improduttiva in realtà sia un confine molto più labile, cioè abbiamo visto anche come il disoccupato per esempio che paga la spesa, produce informazioni, cioè quindi produce un'altra merce che viene venduta. Allora non è che è venuto proprio meno il presupposto per questo secondo punto, cioè la possibilità di una sfera di non lavoro all'interno della vita? Okay. Rispondo a quest'ultima domanda per brevemente, no, ma il discorso che ponevo io era sull'elemento di rottura. Da una parte il fatto che se tu hai una garanzia di reddito puoi esercitare il diritto alla scelta del lavoro. Cioè il discorso è tutta la tradizione di partecipazione sociale, civile, eccetera, diritti di cittadinanza, sono passati attraverso il discorso dell'etica del lavoro, al diritto al lavoro che è sancito dalla Costituzione e all'interno dei diritti fondamentali della Carta dell'ONU del 48, eccetera, eccetera. Per cui era sufficiente lavorare per poi godere di tutti i diritti sociali, eccetera, eccetera. Chi si rifiutava di lavorare pur avendo una possibilità, cosa faceva? Faceva il clochard, viveva, eccetera. Veniva ai margini della società, faceva il fricchettone, non lo so. Oggi il bancabestia, no? Tutte attività assolutamente degne. Qui il problema è il diritto al lavoro è un diritto al lavoro capitalistico, un diritto al lavoro all'interno della griglia imposta dalle necessità di accumulazione da parte delle imprese. Inserire e passare dal diritto al lavoro al diritto alla scelta del lavoro vuol dire che non necessariamente tu entri all'interno di queste compatibilità di impresa, all'interno della griglia che le imprese scelgono. E questo è l'elemento di rottura. Poi tu dici, in ogni caso io produco. Certo, sì. Bellissimo. Però almeno decidi tu. Tu puoi decidere anche di fare attività. Io sono convinto benissimo che anche questi cicli di seminari sono produttivi. Però preferisco fare questi cicli di seminari che andare a una lezione, per esempio. No? Allora esercito il mio diritto di libertà, di scelta. In una struttura sociale compatta, questo viene visto come una cosa estremamente pericolosa. Non so se è chiaro. Sì. Non è il diritto al non lavoro, eh? Non ho mai parlato di diritto al non lavoro. Cioè per me la distinzione tra lavoro e non lavoro non esiste più. Si passa dal farsi sfruttare necessariamente allo scegliere da come farsi sfruttare. Ma non è detto, perché? Ok, mettiamola pure da questo punto di vista. Però è anche il fatto di dire, non è detto, perché nel momento stesso, perché questo mi collego adesso alla domanda, io sono... Non toglie poi la domanda che ha fatto Valeria, cioè a questo punto tutti scegliamo, ma poi c'è una parte di cose che insomma nessuno vorrebbe fare, chi le fa? Allora, andiamo a definire meglio, adesso rispondo a lei, andiamo a definire meglio cos'è il lavoro disgraziato. Il lavoro disgraziato viene considerato, è quello che viene considerato socialmente disgraziato, no? È considerato socialmente disgraziato perché socialmente viene riconosciuto come dequalificato. E qual è il parametro di misura che dà la misura della dequalificazione? Il salario, normalmente. Poi, no. Perché se io spalo merda, che è già un lavoro non proprio di quelli che... e vengo pagato 500 euro al mese, unisco la schifezza del lavoro al fatto che socialmente dice, vabbè. Allora, di fronte al fatto che nessuno vuole fare determinati lavori disgraziati, no? Le risposte sono due: o questi lavori qui scompaiono, perché c'è un processo di ammodernamento, come è successo in tantissimi altri lavori, no? In seguito all'innovazione tecnologica, ma non è una cosa immediata, oppure bisogna pagarli. Per esempio, chi ha determinate competenze operaio specializzato in Germania nelle industrie dell'acciaio e fa lavori abbastanza pesanti e lavora all'alto forno, prende uno stipendio che è superiore ai 3.500 euro mensili. Questo non succede, non succede all'Ilva di Taranto, lì ci sono il precario che prende 700 euro a fare lo stesso lavoro. È il problema di andare a lavorare nelle grosse acciaierie tedesche all'alto forno, non è considerato un lavoro disgraziato, perché 3.500 euro. Se andare a lavorare in miniera ti viene pagato tot, vedrai che improvvisamente nella percezione sociale quel lavoro lì non diventa più un lavoro disgraziato. Inizia a diventare un lavoro disgraziato l'insegnante, che già lo è, perché? Guadagni un cazzo. Quindi la percezione, voglio dire con questo, faccio questo esempio per dire che, attenzione, il meccanismo del lavoro disgraziato o meno non è assoluto, è sociale, la definizione è sociale, tu intervieni su meccanismi sociali. Allora la soluzione, se tu hai bisogno di fare il lavoro di cura, gli infermieri, i turni di notte, eccetera, certo. Però allora io faccio già un lavoro disagiato, faticoso, cazzo, pagami, se no io non vengo a farlo. Almeno questo. Non risolve il problema che il lavoro è sempre disagiato, eccetera, però migliora un pochettino le condizioni. Qui stiamo parlando nel contesto in cui siamo, non abbiamo la presa del palazzo d'inverno dopodomani. Abbiamo un problema di mettere in moto un meccanismo virtuoso che mette in moto che sia un meccanismo virtuoso, cioè si accumuli delle cose che possono andare a impattare, a modificare determinate cose. Non possiamo fare altro in questo momento, che è un passaggio, è una fase di cambiamento. Quando il cambiamento si è più fossilizzato, più chiaro, più evidente, allora si metteranno in moto delle contraddizioni in maniera più netta che potranno essere agite. Nel momento attuale tu non fai altro che il lavoro della talpa, cioè la vecchia talpa, cercando di pungolare. Preferisco, piuttosto che viene uno da me e mi dice tu adesso da domani vai a fare questo, e dice ma non ne frega niente, vai a fare questo, e poi dici andrò a fare questo perché è l'unica cosa che posso fare, se no non so come pagare l'affitto, ti dirò no adesso posso, no questo non lo fatto, vado a fare un altro, sì, è sempre un lavoro disagiato, però almeno è migliore di quello precedente, cioè c'è un miglioramento progressivo. Questo per la singola persona. Per a livello di simbolico invece, il fatto di poter rifiutare, il fatto che magari questo possa essere utilizzato, diventa un'arma politica, un'arma di rottura. È anche vero, come diceva un altro, chi mi garantisce che una volta avendo un reddito ci crea questo meccanismo di composizione sociale? La risposta è nessuno. Dipende anche dalle modalità con cui il meccanismo viene fatto. Io mi ricordo per esempio che nell'autunno caldo, perché io uso sempre il rapporto con l'autunno caldo perché è utile, nell'autunno caldo quando iniziate i primi gruppi di poter operare iniziano a chiedere aumenti uguali per tutti, no? I gruppi marxisti-leninisti dicevano che era una richiesta piccolo borghese. Non aveva scritto proprio così, perché non andava a incidere sulle condizioni di sfruttamento nel rapporto di lavoro. Tu dicevi monetizzi lo sfruttamento, chiedi più soldi però sempre lo sfruttato rimane, no? Che è un ragionamento con la sua coerenza, partendo da determinati presupposti. E lo stesso discorso si potrebbe fare col reddito, monetizzi una condizione di sfruttamento che comunque non risolvi. Però il ragionamento che aveva fatto, dici, innanzitutto inizia a darmi le 40 lire in più al mese. Poi quando io mi sento più sicuro dal punto di vista economico, allora ho iniziato a mettere in discussione la salute, i tempi, l'organizzazione del lavoro. E lì si è entrati, questa è l'esperienza che si è verificata in Italia, ma non solo in Italia, si è entrati a mettere in discussione le modalità e quindi si è entrati poi nel merito del rapporto capitale-lavoro. E questo ti hai potuto fare perché nel senso che hai strappato gli aumenti, hai aumentato la tua sicurezza reddituale, allora dici, beh, adesso c'ho anche la possibilità di fare qualche sciopero. Lo sciopero costa, all'epoca costava parecchio. Perché hai 20 giorni di sciopero, cavolo, non mangiare alla fine del mese. Devi fare tutte le casse di mutuo soccorso, eccetera, però era un problema. Se tu invece adesso hai uno stipendio sufficientemente buono da poter scioperare, intervenire in ambienti di lavoro e modificarlo, e sono stati fatti gli scioperi per la salute, per la casa, sono state chieste le 150 ore di autoformazione, sono state un sacco di cose che sono intervenute sulle modalità di organizzazione del lavoro. Ora certo, se l'aumento salariale era 2 lire al mese invece che 40, non cambiava niente. Se uno ti dà, diciamo, sì, ti dà un basic income, 150 euro al mese, sì, grazie, sai cosa me ne faccio? È chiaro che questo dipende dalle cose. Qual è la soglia di povertà? Noi chiediamo come soglia il valore mediano nella distribuzione del valore mediano, non è la media, è quel 10% della frequenza di distribuzione dei redditi che ha il valore più elevato, la frequenza più elevata, che è intorno al 30% in più della soglia di povertà relativa. Quindi la soglia di povertà relativa in Italia è 580 euro, il 30% in più sono circa, arriviamo sui 1000 euro. Allora, con 1000 euro, magari di cui tot magari sotto forma di servizi, tot sotto forma di reddito diretto, allora la cosa... Poi ovviamente la richiesta, ma nella proposta che abbiamo fatto, perché a Milano in questi siamo partiti una campagna che si chiama Operazione Welfare, abbiamo fatto anche la lotteria Welfare for Life, il modello di Will for Life, perché in Italia è il paese dei paradossi, in Italia abbiamo il paese con dove c'è gli ammortizzatori sociali, il sostegno al reddito più inesistente a livello di 27 paesi europei, non c'è un reddito universale di base, si è stati sanzionati più volte dalla comunità europea, eccetera, eccetera, però ti fanno una lotteria, dove vinci 4.000 euro al mese per 20 anni, allora vai a prendere lì e metti una bottiglia a Molotov sotto, no? Allora invece mettere la bottiglia a Molotov sotto per andare in galera, già abbiamo pendenze di denunce abbastanza lunghe sulle spalle, poi io soprattutto una certa età, per cui adesso queste cose le fate voi, non le faccio più io, no? Facciamo il Welfare for Life come lotteria sulla cosa, chiedendo quali diritti vince con l'estrazione, eccetera. In questa proposta che ve l'abbiamo lanciato, adesso non voglio parlare di questo, però se andate sul sito Welfare for Life lo trovate. Se in questa proposta che viene fatta noi introduciamo anche cassa sociale per il reddito, cassa sociale per i servizi, nelle modalità che vi ho letto prima, e poi introduciamo l'introduzione di una forma di remunerazione minima. Perché il rischio, questo è un rischio, che nel momento stesso in cui tu hai un reddito garantito e sei all'interno di un meccanismo produttivo da cui magari non riesci a uscire perché... per vari motivi, la possibilità di dire, vabbè, già, qualcuno ti dà 500-600 euro, beh, io ti posso diminuire di 100. E quindi far sì che il datore di lavoro scarichi sul reddito la riduzione dei costi, no? Allora, l'introduzione di un salario minimo per i lavoratori dipendenti e di forme di remunerazioni minimi per le attività di collaborazione occasionale, partite IVA, lavoro autonomo, parasubordinato, eccetera, eccetera, è fondamentale. Anche perché il 47% della forza lavoro italiana non riesce ad accedere ai contratti collettivi nazionali di lavoro, che sono quelli che fissano le tariffe, i salari minimi. E quindi un intervento di carattere nazionale sarebbe più che auspicabile, in maniera da evitare fenomeni di dumping sociale. E altre domande? Queste sono le domande più dirette. Sulla rappresentanza non ti rispondo perché sono convinto anch'io che il problema della rappresentanza è un problema complesso. Lo sviluppo di forme di il concetto di rete come bene comune e il concetto di rete come forme di strutture di auto-organizzazione orizzontale, eccetera, sono tutte tematiche che sono state trattate nell'ambito dei movimenti negli ultimi anni, ma qui non è stata data una risposta univoca. Però sicuramente le forme di rappresentanza classiche, basate sul concetto avanguardia partito che rappresenta gli interessi del lavoratore, credo che sia saltata. Fino a qui mi azzardo a dirlo, oltre non mi azzardo. Vedremo un po', credo che sia la prassi che determina le forme di rappresentanza. Come la prassi che genera la teoria, diceva uno, così sarà la prassi che genera le forme di rappresentanza. Per esempio, le forme di rappresentanza generate sui network sociali, blog tipo Popolo Viola, queste robe qui. Che cosa sono? Come sono forme di spontaneismo, sono forme di organizzazione, sono tutte forme ambivalenti, un po' ambigue, eccetera. Però sono tutti fenomeni che danno adito di modalità di sperimentazione di forme nuove di rappresentanza sociale. E sono tutte da vedere, però non saprei dirti molto di più rispetto a queste poche banalità. E le altre domande erano, allora, ciclo materiale, io non credo affatto, no, questa storia di ciclo materiale non so da dove è saltata fuori, ma la mia risposta è la seguente. A me piace, io sono economista, mi piace molto la storia, per cui guardo sempre quello che succede nel passato come lezione per il presente. Allora, immaginiamo di esserci nel 1830. E a un certo punto c'era un pazzo che diceva, 1830, non preoccuparti, tra meno neanche 160 anni, 150 anni, cioè, il peso dell'agricoltura sarà non oltre il 5%. E diceva, tu sei scemo. Nel 1830 l'agricoltura pesava per il 70-80%. Come fa a diminuire l'agricoltura al 5% che dall'agricoltura noi abbiamo i cibi che ci servono per sopravvivere, da mangiare? Eppure 150 anni dopo l'agricoltura pesa per il 5%. Allora il ragionamento è questo. No, come fai a togliere a non esserci più la produzione materiale? La produzione materiale non scomparirà mai, ma magari si ridurrà al 5%. E a questo punto, anche al 10%, facciamo pure 15%. Ma a questo punto non mi interessa più, perché non è su lì che nascono le contraddizioni e la discussione sulle prospettive di società che vogliamo costruire. Mi interessa analizzare l'altro 70%. E quindi non lo so, il fatto che ci sia la crisi non vuol dire allora, le crisi si dividono in due categorie, sono le crisi di saturazione di una fase storica, cioè una crisi che dice questa fase storica è arrivata a compimento, apre prospettive nuove, per cui ci possono essere anche dei rinculi, perché la storia va avanti a salti, ma va avanti anche a rinculi, all'indietro, però un cambiamento. E lì solito anche se si torna indietro, non si ritorna mai nelle stesse condizioni precedenti, la storia non si ripete. Allora, la crisi degli anni 70 è una crisi di saturazione del modello taylorista. Questa crisi attuale non è una crisi di saturazione, anzi, io la interpreto come crisi di crescita. Cioè siamo al fatto esattamente un po' simile a quella del 29-30. Anche nel 29-30 il taylorismo negli Stati Uniti si era già fortemente affermato. Perché si è sviluppato nel 1906-7, se prendiamo la parabola del modello T della Ford, il primo modello T è stato fatto nel 1907. Nel 1928 venivano prodotti 500.000 esemplari. Poi a un certo punto si sono resi conto che non riuscivano più a venderlo. Perché la struttura salariale era ancora il salario sussistenza pre-terrorista, adesso lo dico brutalmente. E allora è venuto fuori il New Deal, è il New Deal, keynesismo, eccetera, le nuove regolazioni, il riconoscimento dei sindacati, i patti sociali, il salario legato alla produttività, in cambio della incrementi salariali come la produttività in cambio della disciplina di fabbrica, eccetera, eccetera, eccetera. Questa forma di governance e di regolazione sociale è stata resa nel 1929 come superamento della crisi per affermare quello che la crisi in quel momento aveva messo in crisi, cioè il terrorismo. È stata una crisi di crescita. Io interpreto la crisi attuale come crisi di crescita. Oggi il capitalismo cognitivo è fortemente instabile perché il meccanismo di regolazione, il meccanismo di redistribuzione, di governance, era basato sul ruolo distributivo dei mercati finanziari. Cioè erano i mercati finanziari che garantivano servizi sociali privatizzati e distribuzione delle plusvalenze, e quindi il 30% di lavoratori americani che partecipavano alla new economy, alle nuovi settori, di fronte a un calo del salario reale del 25% negli ultimi 20 anni, come si è registrato negli Stati Uniti, hanno avuto un incremento grazie alle plusvalenze, alle azionarie, grazie alle partecipazioni e ai guadagni di borsa, un aumento del 35%, in cui per loro i loro salari sono aumentati del 10%, un 30%. Fintanto che queste distribuzioni di plusvalenze erano sufficientemente ampie da spingere a processi di indebitamento più o meno garantiti e l'attività dei consumi, il sistema riusciva a tenersi più o meno stabile. Ma condizione perché il sistema fosse stabile era che la borsa avrebbe dovuto continuare a espandersi in maniera illimitata, continuamente, perché era da lì che dipendeva il meccanismo di regolazione sociale. Cioè si è passati da una distribuzione che era produttività salari a una distribuzione del reddito che era essenzialmente salari legati all'andamento della borsa, ma solo una parte dei salari, non tutti, legati all'andamento della borsa come misura del valore della produttività sociale, cioè il valore del general internet, della cooperazione sociale. Più il general internet era efficiente, più veniva sfruttato in maniera efficiente, più i valori azionari salivano. E questo, più salivano, più consentivano la distribuzione alla fascia alta del mercato del lavoro. Questo è un meccanismo, c'è cioè un moltiplicatore del reddito di tipo finanziario distorsivo, perché accentua le polarizzazioni di reddito e a un certo punto diventa insostenibile. Quindi il meccanismo, di fronte a questa situazione, il meccanismo che possiamo avere oggi è di intervenire su una maggior, diciamo, sviluppo di accesso ai beni comuni della tecnologia, dell'informazione e della conoscenza, per meglio incrementare e sfruttare l'economia di apprendimento e di rete, ma con una capacità di intervento e di controllo su queste stesse tecnologie che non deve essere più demandato semplicemente alla struttura della proprietà privata delle tecnologie e dei brevetti. Cioè se si va oltre il brevetto, oltre la proprietà intellettuale, verso idee di proprietà comune o di diritto del comune, vuol dire che allora a questo punto la singola impresa non è più in grado di controllare pienamente il proprio processo produttivo, ma lo controlla sulla base di una regolamentazione con i soggetti che vi partecipano. Tenete presente che questo significa immaginare uno schema di produzione e di accumulazione che non si fondi sulla proprietà privata. Questa è una cosa che il capitalismo non accetterà mai, perché la proprietà privata, come la necessità di lavorare per vivere, sono i due cardini su cui si basa il capitalismo stesso. E la stessa cosa, il discorso del basic income ha a che fare con questo. Il basic income sarebbe un ottimo strumento di risoluzione della crisi e di stabilizzazione del sistema. Quindi dal punto di vista capitalistico sarebbe perfetto. Come era perfetto negli anni del dopoguerra, una politica di alti salari, perché alti salari significa la possibilità di consumo, possibilità di aumentare la domanda, consumo di massa, produzione di massa, consumo di massa, e quindi le due cose si devono in equilibrio. Se tu non permetti all'operaio Fiat di potersi comprare la 500, cazzo vendi la 500? La crescita economica e i profitti gli americani li ha fatti sulla 500, non sulla macchina di lusso che comprano in 15, per intenderci. Certo che se i salari crescono troppo o oltre la produttività, allora il sistema entra in crisi. E se magari coloro che hanno i salari non sono meno ricattabili sul luogo di lavoro, per cui ti rompono i coglioni sui tempi, sui ritmi, sulla salute e vogliono di più, come diceva Alessio, vogliamo tutto. Allora lì il meccanismo salta. Però lì è la contraddizione. Se hai i salari troppo bassi, entri in recessione e non fai profitti. Aumenti i salari, scateni il conflitto e allora lì. Trovare l'elemento. E qui siamo in una situazione completamente diversa dal punto di vista, ma dal punto di vista meteorologico non è dissimile. Qui siamo in una situazione in cui o il sistema è in grado di garantire superamento di eccessiva proprietà intellettuale che blocca lo sviluppo economico, cioè una rendita di pochi a danno di molti, e allora lì devi cercare di allentare la morsa della proprietà privata. È un bel problema questo. Eppure devi garantire poi una struttura distributiva che deve essere tener conto poi su un piano globale e non su un piano nazionale, perché gli stati sono saltati, e quindi è necessaria una governance mondiale, la possibilità che qual è un problema che questa crisi apre grande come una casa di cui non si intravede nessuna soluzione al momento, è che tipo di nella regolazione dei mercati finanziari che sono non possono essere regolamentati. Però l'unica cosa che si può fare è qual è la valuta internazionale di riferimento. Il dollaro non è più valuta internazionale di riferimento. Sta facendo di tutto per rimanerlo, però è fortemente messo in crisi. La Cina propone di un panel di monete, ha fatto richiesta al G20 di Pittsburgh di produrre una moneta fatta da 5 monete, una moneta internazionale di riferimento con cui pagare le materie prime e tutto, quindi sostituzione del dollaro. Quindi significa tutta riconfigurazione degli assetti geopolitici a livello internazionale. Quando succedono queste cose qui, le due soluzioni c'è: o c'è uno che vince subito e impone agli altri, oppure scoppia la guerra. È successo sempre così nella storia, che io sappia. O si fa la pace di Vestfalia perché c'è uno che vince, oppure si arriva la seconda guerra mondiale. E quindi la situazione c'è questa. E cosa farà la Cina? Qui sarebbe lungo a discutere. Ah, quale forza? Ne avrò salvato sicuramente qualcuno. Quello che mi interessava era proprio se riguarda i capitalisti così tanto questi termini qua, anche chiaramente con la prestazione. No, il dibattito all'interno del pensiero mainstream è semplicemente molto povero, perché innanzitutto hanno preso un colpo da uppercut e sono ancora un po' disteso al terreno. E poi perché se uno legge il libro di, c'è un libro uscito di Giavazzi a Lesina, dice che in realtà il problema era dovuto al fatto che bisognava una carenza di controlli per il funzionamento dei mercati finanziari, che per i mercati, anzi, perché questo ha fatto sì che nei mercati finanziari si creassero delle gerarchie, dei poteri interni che erano, si comportavano in maniera perfettamente razionale perché avevano degli interessi particolari, e quindi era necessario dei controlli per sviluppare maggiormente il libero scambio e la concorrenza nei mercati finanziari come strumento di regolazione. Mi vergogno a dire queste cose, non so. Invece per esempio dei grandi multinazionali hanno un ragionamento autonomo, ma i grandi sul luogo della decisione, no? Cioè appunto fanno una ricerca dell'IBM oppure di... Ma le grandi imprese sono impegnate a... ogni grande impresa ragiona come un'entità a sé stante, quindi in maniera anarchica, cioè anarchica nel senso, non nel senso dell'anarchia, tanto di cappello, nel senso di individualista, ecco, diciamo. E quindi sulla base di, presumo, guarda, io non si saprei rispondere, però presumo che stiano operando, stiano ragionando a vista. Però non, volevo chiedere a qualcun altro. Ringraziamo. Figurati. Per altre considerazioni, domande, potete andare su queste, sia sulla mailing list che sul gruppo, che sul blog. Per comunque, per sul discorso che capitale cognitivo, ruolo dei mercati finanziari, ruolo della